Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una stiamo testa per, di cazzo internazionale. Stiamo parlando, stiamo parlando. Stronzo che non sei altro. Ma che dici? Ma stai una volta facevi il giornalista anziché insultare. Ma che cosa sei? Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Allora io ti denuncio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Scusi. Dato che lei fa il processo in diretta alle persone, se fanno i contratti per emigrati, no, e non sa nemmeno da che parte vengono i soldi, allora per una persona, un genio come lei, che parla solo di culi e la gente per bene l'Italia, allora i soldi non vanno a prendere, è meglio che glieli danno alla gente che ha fame. Ha capito, lei deve vergognarsi. Aspetta. Buonasera. Non ho capito, Esther, richiamami questa stronza, dai, richiamami questa vecchia maledetta. Signor, cosa hai detto? Vecchia una maledetta. Signora veramente per bene, ma che ha posto un tema questa. Che dobbiamo riprendere domani. Ma una che, signora richiamatemi straordinaria. Questa vecchiaccia. Ma cosa, come ti permetti di dire schifosa, così? Vecchia, signora, con tutto rispetto per i signora... vecchi. Signora... Pronto? Signora cara, non accetti provocazioni da quel miserabile, brava. No, io non sono questa, gliela dico quel signore lì. Sì, lo so, lo so, signora. Che la trasmissione può essere anche allegra e così, ma uno schifo così. Fa schifo, lo so. In più, fa schifo, Cruciale, ha ragione. Quei conti alla gente in tasca prima che sa le cose, brava, e poi fa i processi, che voglio nascondere. Ma grazie per aver chiamato. Lei ha mai squirtato in vita sua? Ma cosa vuoi dire sta roba alla signora? Ma cosa vuoi che sappia, signora? Esther! Ho un sogno, Vanna Marchi che squirta su Parenzo. D'accordo! Ragazzi, con noi in studio stasera un grande ospite, David Parenzo! Eccoci qua, eccoci qui! Lo vedo in faccia, quello stronzo di regista lì, lo vedo in faccia, quel cane che andrebbe portato a Guantanamo, quel regista lì, a Guantanamo dovrebbe andare, infame, perché prima fa Barisoni, l'economia, no, l'indice, non so chi cazzo lo fa, lo fa, fa il telegiornale, il punto 24, poi viene qui a fare il punto G. Ma che roba sei? Cane! Vabbè, ragazzi, allora partiamo subito con una frase, quella del signor Alan Friedman. Sì, okay. Molti di voi conoscono questo signore, bravissimo, americano. Friedman. Domani, tra l'altro, non voglio dirlo, presenteremo il suo libro. Ma l'hai già detto? Cosa hai detto? Hai detto che presenti il libro di Piccola Friedman. Marchetta. Domani a Milano alle 14.30 a Roma. Tutti alla Fiera del Libro, tutti gli antiparenziani, no. Domani, Fiera del Libro, date l'assalto a Friedman e Parenzo. Parleremo andate, Trump, andate in armi pacifiche, armi. Con le mani alzate, ma a protestare contro Friedman, che adesso vi faccio sentire no, una frase, adesso vi faccio sentire una frase di quello che ha detto, e anche così, a buffo contro Parenzo. Comunque ragazzi, la frase di Friedman è questa, sapete che ci sono stati ieri, noi non eravamo più in onda, gli attentati a Parigi, non l'attentato di Parigi, la solita cosa, il terrorismo, cioè, chissà quanto c'è di vero intorno a queste cose. C'è? Io non credo più a un cazzo, le rivendicazioni dell'ISIS, non credo più a nulla. È tutto un complotto. Non lo so, ma non credo più a niente, tutto di base non credo più. Comunque lasciamo perdere. Il signor Friedman ha detto però che... I terroristi potrebbero voler favorire la Le Pen. Beh, diciamo che le bombe aiutano sicuramente la crescita questo della Le Pen. Questo lo dici tu, chi l'ha detto? Questo mi pare ma evidente. Chi lo dice? Questo lo dici tu. Ma questo può, è ovvio. Può essere. È ovvio che arriva, chi la sei? Strategia il del sondaggista francese? No, chi no, sei? No, il, ma, come si chiama quello là della 7? Il sondaggista, come si chiama? Masi. Il Masi francese? Il Masia francese? Il Masia francese, che ne sai? Mi piace più il Mannheimer. Il Mannheimer è caduto in disgrazia. Comunque, il Masia francese. Comunque, Friedman, dai. E ovviamente durante la chiusura della campagna per le presidenziali dobbiamo anche chiederci se chi ha fatto questo potrebbe aver voluto favorire Le Pen, perché è un atto terroristico. I terroristi potrebbero voler favorire la Le Pen, così dice Friedman. Allora, un altro caso è quello che coinvolge, come sapete, un reporter attivista italiano del Grande, si chiama, sì, che è detenuto in Turchia, detenzione amministrativa. Ma una cosa vergognosa, cioè, quella, sì, che per fa carità, sono, però ragazzi, detenuto, non è in carcere come quello del famoso film, ti ricordi, no? Quello del film sulla Turchia, lì ai ceppi, col carceriere gay che si inchiappettava, che si inchiappettava i carcerati. È una prigione, per adesso, per fortuna, ancora una prigione, diciamo. Non è un hotel a 5 stelle. No, certamente. Però sentite la sorella. La sorella, in tutto questo casino che la c'è. La sorella o la moglie o la compagna? No, la sorella, mi sembra, la sorella. Allora, la sorella di questo del Grande, ovviamente si augura che il fratello venga rilasciato. Su questo chiunque. Questo chiunque. Tutti noi, anzi, anche però la Zanzara, sentite, lo chiediamo a Erdogan. No, la Zanzara non chiede un cazzo. Sì, la Zanzara, Erdogan. Zanzara no, non si schiera andare contro, no, Erdogan. No, non è vero. Sì, sì, sì. La Zanzara è contro Erdogan e chiede ufficialmente la liberazione. Ma non gliene frega nulla ad Erdogan, scusa. Della Zanzara, no? Niente, assolutamente nulla. Allora, la sorella di Del Grande, no, voi prima sentite e poi giudicate, perché va bene tutto, gli appelli per la liberazione. D'accordo. Però c'è una parte finale in tutto questo casino, amica mia, sorella di Del Grande, la cena che lo aspetta, non so giusto. Dove, a Milano, nella città dove abita Del Grande, non lo so, non mi sono occupato a fondo della vicenda. Sai che sta in Grecia. Vabbè, comunque, lo aspetta una cena particolare, sentite. Sentite. Sono la sorella di Gabri e oggi raccolgo io questa staffetta di digiuno da compagnia, come l'abbiamo rinominato. Chi oggi vuol farmi compagnia in modo, in questo gesto simbolico. Niente, Gabri, ti aspettiamo a casa, ti aspetta una stra mega cena rigorosamente vegana e soprattutto ti aspetta un sacco d'affetto che ci stai mancando come un pazzo. Amica mia, in tutto questo casino tu trovi il tempo di citare una cena che ti aspetta a casa. Beh, rigorosamente vegana. Ma se gli piace così, amico mio. Ma amica mia, ma questa è l'ideologia inculcata nel cervello. Io lo dico, non ho nulla contro ovviamente né Del Grande né la sorella, perché dovrei avere qualcosa contro. Ma perché devi citare ti aspetta una cena rigorosamente vegana? Vabbè, ma come ma che dire... cazzo c'entra la cena vegana? Non lo so. In tutta questa tragedia l'importante che cos'è per lei citare la cena vegana? Dai! No, ma come dire una cosa che ti piace tanto. A te avrebbe detto una cena di abbacchi, una cena con delle MILF, ti avrebbe detto. Ti avrebbe detto una cena con delle lesbiche, con dei trans, ti avrebbe adesso, detto qualcuno. Se tu fossi rapito, ostaggio in Turchia, qualcuno, cioè io, avrei detto dai, torna presto Giuseppe, vedrai che c'è una cena con gangbang, transessuali, quella troia lì da Pordenone dentro il camper e una costatina di agnello. Questo è quello invece è la cena vegana. Ma ognuno ha il suo, no? Sì, però... mi pare evidente. Sì, scusa. Parenzo, tu sei il più grande culatore del mondo. Questo dovete dire grazie al regista per questi. Al regista. Allora, il mitologico programma Dalla Vostra Parte, sì, Parenzo, va a rompere i coglioni, giustamente, secondo me, ai parenti o anche ai titolari di un vitalizio che si chiama Scalera in Campania. Questo può essere anche giusto. No, va a rompere i coglioni, quello è giusto, andare a rompere il cazzo a quelli che hanno i vitalizi e dicono, scusi, lei non si vergogna di avere un vitalizio così eccessivo? Ma non sono immigrati questi? No, non sono immigrati, italiani, parlamentari, no, ecco, italiani. Per capire, no, gli immigrati hanno combinato qualcosina alla stazione centrale di Milano oggi, hanno aggredito carabinieri e polizia. Non lo so, alla stazione un non profugo, è successo proprio niente. Un profugo, si vede un che profugo. Sarà stato stufo di stare lì tutto il giorno, ma che cazzo vuol dire? Stava vuoi lì, vuoi giustificare quelli che hanno assaltato polizia e carabinieri? Voglio capire cosa è successo. Il giornale.it: immigrati feriscono militari. Poi la maxi rissa in centrale, cioè, non ci credi, tu dici? No, ci credi. No, ci vediamo un attimo. Attenzione alla stazione di Milano: il giornale. Un profugo reagisce ad un controllo, aggrediti un militare e un carabiniere. Ma a parte questo, sono andati a rompere il cazzo dalla vostra parte ai vitaliziati. Sentite la reazione di alcuni parenti di un tizio che prende il vitalizio, ma credo che hanno quattro vitalizi in famiglia. Questo si sa: 3-4 vitalizi. Questi Scalera, senti, eccezionale. E così il padre dei fratelli super vitaliziati, appena ci vede, reagisce così. Ma una domanda gli vogliamo fare! Una sola domanda gli vogliamo fare! Sia calmo! Oh, sia calmo! Sia calmo! Sia calmo! Una domanda solo! Ma come mai? Noi siamo di Mediaset! Siamo di Mediaset! Mio figlio! Ma lei lo sa che voi siete la famiglia che prende. Che prende quattro vitalizi! Quattro vitalizi prendete! Cioè, non è una cosa normale! Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Allora, sto calma. Sentendo Parenzo si diventa razzisti. Io farei la prima assemblea del partito Noi con Cruciani nella masseria a Lecce, per dare un segnale forte all'Italia, che noi ci siamo, grandi battaglie popolari, forza Noi con Cruciani. L'Italia vera, quella che non si arrende, quella che non si arrende di fronte ai soprusi, di fronte a questa piccolissima, non tanto invasione, questo arrivo di questi migranti che non viene fermato, questo business pazzesco delle ONG che ci guadagnano a portare direttamente in Italia i migranti sulle barche, diciamolo, non bisogna essere Salvini per dirlo, si può anche essere Cruciani per dirlo, si può anche essere non leghisti per dirlo, dai! E poi, Parenzo, i migranti vanno a rompere i coglioni al popolo, alla gente di sinistra, questo, non ai ricchi, non agli snob come te che, popolo, che abitano, guarda, che abitano nei quartieri bene della capitale. Ecco. No, dai. Ma quali quartieri, insomma. No, vabbè, comunque, normale. Ragazzi, le cazzate che dice Alessandra Moretti, perché va bene tutto. Noi rompiamo i coglioni quando è il caso ai 5 Stelle, all'inadeguatezza. Tu dici la signora Moretti del Partito Democratico? Amico mio, Alessandra Moretti del Partito Democratico. Io, se fossi nei dirigenti del Partito Democratico, per carità, per fortuna, nessuno decide di mandare in televisione, anzi qualcuno decideva ogni tanto di mandare chi in televisione, ma insomma, amici miei, evitate mandare le persone allo sbaraglio, completamente allo sbaraglio. La signora Moretti, ma sta anche simpatica, molto sì, bene. Ma può essere anche simpatica, non lo so, ma ha detto una serie di cazzate per attaccare la giunta Raggi. Ci sono tanti argomenti, ma non la morte, che non c'è peraltro, di un ragazzino per i topi, per il morso di un topo. Hai detto una puttanata sesquipedale, ma sentiamole anche due altre cazzate. La situazione sanitaria a Roma è in pericolo, è una cazzata, si può attaccare la Raggi per tante cose, ma non su queste puttanate. Moretti, ma poi questa Moretti da quanto tempo è in politica? Non ancora, questo cosa vuol dire? Ma non ha imparato nulla come comunicazione, ma come magari cose, magari sarà sfuggita, non voleva dire quello, adesso non lo ma so, al contrario, io sono un maestro in queste cose qua, cioè, ma sono un genio al confronto, sono un genio, ma ti giuro, mi sento un genio di fronte a queste cose. Non le direi mai queste puttanate, ne dico tante altre, ma queste puttanate non le direi. Siamo a Roma in emergenza sanitaria, ratti ovunque, cioè è morto un bambino di 2 anni perché è stato morso da un topo, una turista è stata morsa da un ratto, un cinghiale ha attraversato la cassia e un ragazzo in motorino è morto. Allora ragazzi miei, l'emergenza, tu abiti a Roma, ecco, allora, cioè, dimmi la verità, c'è l'emergenza sanitaria? L'emergenza sanitaria non lo so, non c'è l'emergenza. Allora guarda, che io qualche topo sotto casa l'ho fotografato e come hai detto tu non abito in periferia. Vabbè, gabbiani che svolazzano come dei 19, come degli aerei, David, non essere ridicolo, no, dai. Ci sono gabbiani, io domani quando torno a Roma ci sono dei gabbiani grandi come la roba di Semproni, praticamente come la nerchia di Semproni, l'hai detto tu, gabbiani enormi che svolazzano, che sopra, sono pericolosissimi i gabbiani. Ma ho capito, ma che bisogna fare, la moria dei gabbiani? Ma bisogna sterminare i gabbiani. Ma i gabbiani sei impazzito. Sterminarli i gabbiani. È impazzito. Ma non sono pericolosissimi. Sei a passeggio con il tuo piccolo bambino. Ragazzi, comunque, ci sono gabbiani, questi che ti sopra la macchina, ti beccano, li vedi mangiare, allora, con la spazzatura. Ma non c'è un'emergenza sanitaria, come c'è, dice questo. C'è un'emergenza questa. Gabbiani che svolazzano. I cinghiali? L'emergenza cinghiali? Ci sono cinghiali che corrono, c'è 5 stelle. C'è di tutto. Ha fatto bene la Moretti. No, il topo, no, quello non è morto, per il bambino per fortuna non, certo, è morto. L'assessore Montanari dei 5 Stelle a Roma dice topi mai visti. Vabbè, no, la Montanari, ecco, l'assessore dovrebbe farsi un giretto. Dovrebbe fare un giretto, però, ragazzi, e vederli, specie nei pressi dei locali pubblici, specie nei pressi dei giardini. Fermi tutti, Luca da Roma, vai Luca. Sì, ciao, buonasera Cruciani. Dimmi Luca, dimmi. Ciao, abbiamo chiamato adesso perché così prima che il dottore va a fare l'aperitivo. Sì, ma il dottore può andare a fare aperitivo a Milano anche, non c'è il filippino oggi, però potrebbe andare a fare l'aperitivo lo stesso. Vabbè, dimmi. Luca, dimmi. Sì, no, io volevo intervenire in merito alla questione, alla grande questione squirting, perché siamo qui pronti. Fantastica, fantastica. Ci vuoi raccontare la tua esperienza di squirteraggine, diciamo, di squirtata? Sì, diciamo che io, ecco, stavo con questa ragazza. Ma quanto tempo fa? No, una decina di anni fa, è stata una delle mie prime ragazze. E a lei quanti anni? Sei anche l'unica, mi pare. 20. Lei 20, tu? No, io 20, tu lei 20. 18. Lei 18, allora? Lei 18 e lei ha scoperto, diciamo, questa sua dote, questo suo grande dono, proprio ha scoperto di averlo con me. Tra l'altro, poi allora, ci siamo qual è la particolarità? Tu dici, ha scoperto con me di avere il dono dello squint. Vabbè, d'accordo. Bisognava, Cruciani, ti dico questo, bisognava passare il mocio. Beh, mago mio, mi fa emozionare questa immagine, cosa. Il lago, il laghetto. E qui Dottole va a fare l'aperitivo, secondo me. Dottole è indignato. Dottole è molto indignato. Dottole molto indignato. Vabbè, ma tu ti sei innamorato di questa cosa. Quanti anni hai adesso tu, Luca? Ovviamente 30. 30, cioè tu 10 anni fa ti sei emozionato per questa cosa? Cioè sei diventato dipendente di questa cosa? No, dipendente no. Questo è importante. Però insomma c'è molta soddisfazione, dà molta soddisfazione. Questo è innegabile. È innegabile. E tra l'altro poi ho saputo da altre voci, adesso ho perso i contatti con lei, ma ho saputo insomma che lei ha anche sfruttato questa cosa, poi mi ha cominciato a mandare. Beh, credo che insomma, ecco, diciamo, ci si sia divertita anche con altre situazioni. È normale, in che senso divertirsi? Beh, è ovvio, stata ovvio. Con altri ragazzi, cioè non è mica sia stato l'unico. Mi ha mandato anche ultimamente delle sue foto, ecco, sì, quindi è tutta roba normale, Parenzo, gente si scambia foto porno, si scambia video, filmati. Però la cosa del mocio, insomma, è quasi come la signora che doveva asciugare i mobili, Il mocio, il mocio. Io penso che siete una comunità, un branco di maiali proprio. Vabbè, cioè, allora andiamo. No, ma sono cose. Maiale. Cerchiamo vorremmo sapere gli scheletri nell'armadio di Parenzo. Noi. Ma gli scheletri nell'armadio, la vita privata di Parenzo sarà normale. Dottore, rapporti sessuali normali, diciamo, regolari. Noiosi. Secondo splitz. No, splitz la Pablo Letalia. Dottore, solo Maltini Bianco. Ivano, provincia di Treviso. Vai, Ivano. Dimmi. Buonasera, salve. Dimmi, vai. Volevo intervenire in merito ai vitalizi. Che vuoi dire sui vitalizi? Dimmi, questa vergogna dei vitalizi. Non vanno aboliti. E perché non vanno aboliti? Sei figlio di un vitaliziato per caso? Sei figlio di un vitaliziato? No, anzi, sono un figlio di una persona che ha fatto tanti sacrifici. Però secondo me se un politico ha acquisito quei diritti li deve avere. Sì, i diritti acquisiti valgono in alcuni casi e in altri no. Fermo lì, fermi tutti. Cruciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti spaccherò la faccia se non mi raccuoio. Comunista di merda. Ma non mi importa se non mi ami più. Quel nano malefico. Non mi importa se non mi vuoi bene. Dovrò soltanto imparare a camminare. Eh? Se non ci sei tu. Comunista di merda. Eh? Beppe, porca puttana. Giuseppe, ma perché non organizziamo uno scherzo con Don Gataldo? Mo passi, richiamiamo, ce parlo io, però è una cosa seria, Ci dico buonasera, sono Carmine da Roma. Le volevo dire che io c'ho un problema molto serio. Io una volta sì, una volta no, devo andare a scopare. A me mi piace la fregna, come facciamo? Mi liberi dal male, Don Cataldo, mi liberi dal male, a me mi piace la fregna, non posso stare senza fregna, prima la fregna, prima lo sticchio, a me mi piace lo sticchio, come possiamo fare? Mi può dare una cura a lei? Come posso fare per non pensarla? Come posso fare per non ci pensare? Come posso fare? Don Catà, mi dica lei, chiamamolo Giuseppe, chiamamolo che ci voglio parlare. Sei Asmodeo, sei. Asmodeo, vai via. Allora leggo, caro Parenzo, leggo sul quotidiano La Repubblica, non sul Libero, il giornale. Sì. Corsi di make-up per le donne rifugiate. Ottimo. iniziativa nel centro di via Carcano a Milano. Sì, benissimo. Attività di fitness per gli uomini. Ottimo, sì, così leggo, si leggo, centro faro in città, cioè a Milano, di via Carcano a Baggio. Alla domanda alle rifugiate richiedenti asilo, ancora dunque tecnicamente, caro Parenzo, clandestini. È un termine che andrebbe abolito, non esistono clandestini. Esistono uomini che si spostano, che vanno da una parte all'altra del mondo. Io dico il termine tecnicamente... clandestino va abolito. Uomini e donne che viaggiano verso la felicità. Viaggiano verso questo la felicità. Questo è il tema. Uomini e donne. Da oggi è così. È così. Uomini e donne. Abolire il termine. Anzi, deve diventare un reato usare il termine clandestino, perché dà l'idea di qualcosa di illegale. Cioè, tu sei arrivato all'opposto. Sì, no, no, esatto. Abolire, cioè, è un termine. Hanno abolito il reato di clandestinità. Tu, secondo me, bisogna abolire il termine clandestino, perché è abominevole il fatto di chiamare, di definire, non è clandestino, sono persone alla ricerca della felicità. Puoi rendere illegale la felicità? No, è un diritto alla felicità, quindi chi usa il termine clandestino dovrebbe commettere, ma è anche un diritto dello Stato prendere a calcio in culo quelli che vogliono entrare. Non ci sono confini, il mondo è di tutti, un mondo aperto. Anche Israele allora dovrebbe essere aperto a tutto. Questa è un'altra questione. Questa è un'altra questione. Dicevo, comunque, in questo torniamo alla questione molto più semplice, molto più prosaica, altro che felicità qui. Certo, le persone cercano felicità, su questo non c'è dubbio. Chiunque cerca felicità, anche un ladro, anche un bandito cerca la felicità. Vabbè, anche un criminale cerca la sua felicità. Un reato, il bandito. In ogni caso, questi rifugiati richiedenti asilo, tecnicamente clandestini, come dico io. E in questo centro brutto, a Baggio brutto, clandestino è brutto perché, cosa chiedono? Perché, e gli amori clandestini ad esempio? Ma cosa c'entra? Che no, dai, ma è il termine, sì, è sbagliato il termine clandestino. Gli amori clandestini sono due persone che si vogliono bene. Dici sono fuori dalla legge. Quale legge? Il termine clandestino è orrendo, le è leggi, orrendo. Le leggi che precedono la civiltà. C'è il diritto all'amore, il diritto alla felicità, il diritto a spostarsi, il diritto alla vita. No, non si può. Cosa vuoi mettere? Dei confini all'amore, ad esempio? Sarebbe assurdo, no? Ah, no. Invece e quindi esisto. Ma che confini? Invece ci deve essere come il diritto, è il diritto di migrare, che è un diritto, cioè di spostarsi, di andare. Allora, ragazzi, dopo queste cazzate di Parenzo, dopo questo editoriale, diciamo alla Gino Strada. No, ma che Gino Strada? Sì, editoriale alla Gino Strada, un editoriale, come dire, alla, non so chi potrebbe dire, la Giuliana Sgrena, queste persone qua. Come, non so perché mi è venuto in mente Giuliana Sgrena. Comunque, gli operatori della Fondazione Albero della Vita a Baggio, provincia di Milano, anzi quartiere di Milano, hanno trovato bello questo desiderio delle donne profughe nigeriane e non solo nigeriane, e anche utile. Hanno chiesto soprattutto di imparare a truccarsi e pettinarsi. Bellissimo. E i maschi di poter fare sport. Bellissimo. Cioè non praticamente imparare l'italiano, imparare un mestiere. No, truccarsi e pettinarsi. Perché la bellezza per le donne è importante. Soprattutto è gli uomini, è un segno di dignità. Gli uomini rifugiati, sai che cosa vogliono? Sono interessati agli aspetti legati alla cura della pelle. Beh, come certo. Lo scrub. Come te? Come lo scrub. Perché tu non hai cura della pelle. Come lo scrub. Vabbè, lo scrub. Cioè tu sei immigrato, vieni qui, la prima cosa che dovresti pensare non è lo scrub, non è il make up, no, ma scherzi a parte, non è il fitness. Ma che c'entra? È ritrovare la dignità. Dai. Tu sai, adesso dico una cosa seria, tu sai ad esempio che nei campi di concentramento nazisti le donne, nonostante la prigionia alle quali erano sottoposte, trovavano dei momenti di intimità e anche il truccarsi, il provare a sistemarsi i capelli nel campo di concentramento era un modo per ritrovare la propria dignità di donna. Allora, le donne migranti che vengono qui hanno diritto di chiedere il make-up, è i corsi di make-up. È un modo per ritrovare la loro dignità di donne. Una cosa incredibile, ragazzi. Allora, il bando per l'accoglienza 2017 a Como. Tra i servizi di assistenza questo generica alla persona. Questo? No, no, no, ma questo è vero. Ma chi lo scrive? Tra i servizi di assistenza. Sto leggendo un articolo sul Libero, ma ah! Non è. No, no, non c'entra niente. È vero. Vabbè. Tra i servizi di assistenza generica alla persona. Sì. Chi vincerà la gara dovrà occuparsi pure dell'igiene di capelli e barba dei richiedenti asilo. Cioè, basette, frangia, pizzetto degli extracomunitari presenti a ridosso delle Alpi, capito? Tutto pagato con i soldi pubblici, igiene di capelli e barba. Le cooperative, signori! Le cooperative, il business delle cooperative. Mi scrive Oliviero Toscani, bravo David sulla parola clandestini. Oliviero Toscani, mi stiamo ascoltando. Oliviero, mi sto ascoltando. Amico mio, ormai hai il cervello in pappa. No, hai il cervello in pappa. È una parola hai orrenda, il clandestino. Cervello ormai andato. Toscani scrive, bravo. David, Oliviero, vi sto ascoltando. Claudio dalla provincia di Cremona, dai, forza, dai, vergogna, vergogna Toscani, vergogna Toscani. Ogni stato mette delle regole, non c'è il diritto di emigrare. In Australia stanno mettendo regole più rigide, per fortuna. Nella civilissima Australia. Ma qual è una terra fondata da ex briganti, l'Australia, dai, ex criminali. L'Inghilterra la usava come refugio un peccatorum di ma cioè, terra ti fa schifo l'Australia. La terra di ex criminali, l'Australia, dai. Claudio, provincia di Cremona. È vero, è stata fondata da ex criminali. Era una colonia originariamente. Anche l'Australia diventa incivile perché mette delle regole severissime contro l'arrivo dei migranti. Hanno lì quattro coccodrilli, dai. Claudio, provincia di Cremona. Dimmi, Claudio, dimmi. Sì, mi senti bene? Sì, sì, dimmi. Grazie, allora, innanzitutto buonasera. Sì, vai, non ce ne frega un cazzo, buonasera. Esatto, dai. Niente, volevo raccontare una storia che mi è accaduta un mese fa. Giustamente, scusami Claudio, ti interrompo un secondo solo. Sì, l'Australia chiude le frontiere, solo migranti qualificati. Il lavoro prima agli australiani, regole più severe. Ma chi sono gli da oggi è difficile ottenere un visto permanente anche per i 25.000 italiani che ogni anno seguono l'Australian Dream, insomma, che vogliono il sogno dell'Australia. Ma è normale che sia così? Un paese dà delle regole precise per l'arrivo delle persone, ma se uno viene a casa Parenzo, a casa Toscani, a bussare e dice pronto, voglio entrare, la prima cosa che dici, no scusa, questa è casa mia, dico io chi entra e chi non entra, capito Toscani che ci stai ascoltando? Mi sta scrivendo giustamente, capito Cruciani, che ci stai ascoltando? Mi scrive Toscani, Cruciani come sei vecchio, antistorico, mi scrive in diretta Oliviero Toscani. Tutti a casa Toscani, allora fate l'invasione a casa Toscani, dai, su, casa Toscani, ci sono delle regole precise a casa Oliviero Toscani, non entri se non decide Toscani, la stessa cosa devono fare gli stati, se gli stati non vogliono, le persone non entrano. Cos'è lo chiaro? Stato? Cos'è lo Stato? Il territorio. Non c'è neanche ma più lo Stato-nazione ha creato dei morti pazzeschi, allora, confini. Ma quali confini? Vabbè, nessun confine. Vuoi mettere confini? Nessun confine. Vabbè, lasciamo perdere i confini. Ma per carità, ma chi se ne frega? È un grande spazio. Claudio, una grande Claudio, vai, grande spazio, sì. Ma niente, tutto. Volevo raccontare questa storia che mi è accaduto. E niente, praticamente... mi accosto vicino a una prostituta, una ragazza, no? Sì. E contratto il prezzo, la carico su e niente. Ma dove questo? Qui in zona Crema. A Crema, sì. Sì, sì, e niente, cosa succede? Luogo libero, posto libero, posto libero, posto libero. Sì, sì, andiamo in una non troppo, stradina, però. Andiamo in una stradina in mezzo ai campi. Sì. Cosa succede? Passa uno con la moto e mentre me la sto inculando. No, vabbè, adesso, amico mio, però adesso. Scusa, se vuoi pigliarci per il culo, va bene. No, no, cioè, no, davvero, siccome qui si bisogna distinguere le cose, Claudio. No, no, no, aspetta, perché no? Perché ne va anche della credibilità del tuo racconto, certo. Perché altrimenti non ti crediamo se fai lo stronzo così, perché il problema non è tu stai raccontando adesso, mi sembra di capire, un'altra storia, io leggo sotto solo una riga di quello che mi dicono, l'hanno beccato con una prostituta, ha preso 1.500 euro di multa. Ora non c'è bisogno che tu mi racconti questa cosa qui, perché se tu mi dici questa cosa all'interno di un racconto che non c'entra nulla, io ti mando a fare in culo, perché non c'è bisogno sempre, appunto. Quando uno ci vuole raccontare, quando parliamo di squirting, di sesso anale, va benissimo, è evidente che bisogna parlare di dettagli, in questo caso il dettaglio non conta nulla, zero, dunque tu sei un falso secondo me, la cosa che stai raccontando secondo me è falsa, ma te la faccio raccontare lo stesso, vai. Eh beh, perché scusa, me la fai raccontare lo stesso? Ma no, va bene, perché ho il dubbio che sia vera, perché ho il dubbio che sia vera, però dammi, vai. Comunque lei ha preso 1.500 euro di multa. Sì, niente, e già ecco, già questo mi rende soddisfatto e felice. No, esatto. Perché? Perché vabbè. Ha preso 1.500 euro di multa, è troppo poco. Mettiamo che sia vero, Claudio, le pagate questi soldi o no? No, assolutamente no, perché devo pagarli? Ma devo ti è arrivato a casa la multa oppure te la sei presa la multa in mano e te la sei portata a casa? No, beh, mi è arrivata a casa, fortunatamente, è arrivata prima io che la multa, perché il postino è arrivato... Se no c'era la moglie a casa. C'era la moglie no, a casa? No, non c'è, no, non c'era non c'è nessuno. Non c'è nessuno. E niente, cosa succede? Arriva, no, lei... Ma perché 1.500? Scusa, 1.500 che cos'è? Cosa c'era in questo? Io volevo raccontare, ma tu mi dai del falso. Non è che ti do del falso, tu mi dici, mi stai chiappettando uno. Usi altri termini, ma no, capire, ma va bene, faccio semplicemente... Qui si posso... Scusa, Claudio... Non arrivare a raccontarti perché... Vabbè, allora fermo un attimo, fermo lì che poi adesso abbiamo la pubblicità, fermo là e poi torniamo con te. Però, amico mio, hai capito quello che voglio dire, no? Cioè, non è che c'è bisogno, mi sto incolando una, mi hanno fatto 1.500, chi se ne frega quello che stai facendo? In questo caso non serve. Non serve in questo caso, ragazzi, su, cercate di capirmi. La mia specialità è lo squirting, amore. Beh, amica mia, Parenzo! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Spruzzavi, cos'è lo squirt? Mi visita un dottore, mi disse, non è niente, è nettare d'amore. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. A me piace Parenzo. Siete proprio due coglioni, voi del lavoro non ne sapete niente, non avete mai lavorato, avete fatto i giornalisti, e che è lavorare? E parlate, quello è giusto, è sbagliato, è giusto, è sbagliato. Ma se non sapete un cazzo, che coglioni. Beppe, porca puttana. No! Allora ragazzi, prima di tornare a Claudio dalla provincia di Cremona che ci vuole raccontare le sue peripezie con una prostituta, ha preso una multa di 1500 euro e ovviamente sempre protesta, pochi. E ovviamente protesta, no, è un errore. Sempre troppo pochi. Troppo, no, una follia moralistica, per fare cassa. E Claudio fa bene ad opporsi, a fare una grande operazione di disobbedienza civile, una grande operazione di culturale nel rifiutarsi, sempre se questa storia è vera, nel rifiutarsi di pagare questa multa. I sindaci dovrebbero essere accusati e perseguiti per stalking. Che sei matto? Sì, e gente come Claudio viene stalkerizzata ogni giorno. Viene stalkerizzata ogni giorno. Comunque, prima di tornare da Claudio, volevo farvi ascoltare qualcosa della trasmissione di Costanzo ieri sera, dove c'era anche Fiorello. A un certo punto Costanzo, che come sapete ha ospitato, come molti di voi sanno, ma se non lo sapete ve lo dico io, perché non tutti sono obbligati a seguire la televisione, la radio, i siti internet, eccetera, ha ospitato una signora, una ragazza che è stata sfregiata dall'ex fidanzato che la perseguitava. Una cosa ovviamente vergognosa, l'emozione, diamo tutto per scontato, non è inutile tornare su questa cosa qua. Costanzo a un certo punto se ne esce con questa frase, questa si chiama Notaro di cognome, no? Questa frase, sentite, per quello che si può capire naturalmente. Non possono permettersi una bella ragazza come lei di sfregiare, di costringere all'operazione negli occhi. Ma tutte le donne, non solo le belle ragazze, tutte le devono lasciare in pace. È vero. Le devono lasciare in pace. È vero, vogliamo dire che è più facile per le belle donne che succeda questo, però... No, caro Costanzo, però scusami, maestro Costanzo, mi permetto di dire che trattasi di puttanata. Cioè, non è che sfregiano solamente quelle belle. Certo. Cioè, è più frequente lo sfregio, buttare l'acido in faccia alle belle donne. Se uno è innamorato, pazzo, non innamorato, no, scusate, ho sbagliato termine. Se uno è ossessionato, malato per una persona, tanto da arrivare a odiarla, non ho innamorato, ho sbagliato termine perché non è assolutamente il termine giusto. Non è questione di bellezza o non bellezza, non è più facile, certo, per una bella ragazza essere spregiata, è una puttanata, dai. Vabbè. Raz de Gan contro l'Emme. La cosa incredibile di Costanzo, la grande capacità, è che lì, insieme a questa ragazza, nella prima parte dove c'era l'intervista a questa ragazza spregiata, sì, c'erano poi tutti quanti, dal divino Telma a Raz de Gan, la galleria di mostre, fino a non mi ricordo chi c'era, ah sì, anche al marchettaro lì, quello che ha scritto il libro Mangiacapra. Io cambio il mondo. Non sai nulla di quello che stai dicendo, te lo dico me. Attraverso l'alimentazione, niente, posso farti dimagrire in 10 giorni, io come non si mangia. Ah, sei diventato bravissimo anche tu, bravo. Perché non sai cosa stai vendendo, delle stronzate al pubblico. Come più si mangia, più si fa. Pure. E puoi essere responsabile di quello che dici. Sì, sono responsabile. Con la visibilità viene responsabilità e tu non le hai. Sì. Raz de Gan all'Emme, vendi delle stronzate. Beh, direi che Raz de Gan è perfetto per domenica live, a questo punto, per una grande duello con signor L'Emme. Ma chiunque è perfetto contro L'Emme. Dimmi, mi hanno zero, vestito come un cool, like a clown. What are you talking about? You're talking garbage. Basta, let's go, pubblicità e parliamo con la mente sana. Ma perché si arrabbiano tutti? Riposo. Quando si dice la verità si arrabbiano tutti. Non si può dire la verità che tutti si arrabbiano, non riesco a capire. Non è una verità quello che dici, io sono stronzata. Sono 27 anni che mangio così. E guarda come stai. E guarda tu come stai. Signor Raz de Gan, quello che fa ginnastica, cioè magrissimo, no, bellissimo, un modello israeliano. Sei vestito come un clown. Hai ragione. C'era anche il tuo amico Otelma, Parenzo. C'era anche il tuo amico Otelma. Una persona totalmente inutile. Che ha detto però una cosa su cui sarei d'accordo. Che L'Emme è un ciarlatano, lui. Beh, lì è il bue che dà del cornuto all'asino, eh? un confronto tra titani. Poi, tra l'altro, proprio, tra l'altro un trust di cervelli. No, il divino lì. Lo chiamavano continuamente Mago. Mago, sì, e lui stavolta non si è incazzato. Perché siccome era Costanzo che lo chiamava Mago e Fiorello che lo chiamava Mago, in altre occasioni sarebbe incazzato, sì, come, certo, una bestia. Come si deve chiamare? Ma siccome era divino, lui vuole essere chiamato divino, non Mago. Sì. Divino, pieno di vino in quel senso lì. Divino, che puzza di vino, puzza. Ubriacone. Il farmacista di Desio. Si tratta di un ciarlatano, un imbonitore da fiera, un parassita. Senti chi parla. Non esageriamo. Un parassita della società, perché in pratica lui ha captato metodi innumerevoli che già esistevano, metodi di tipo dietologico, fra i quali si è notevolmente ispirato e ha plagiato il nostro rituale per il dimagramento, okay, armonico. Ma poi, ti rendi conto? Poi parla lui che è un ciccione, ma di che cosa parla? Ma ti rendi... Sarà mica magro il divino Telmo, con quelle palandrane bianche che le mette perché si vede una panza piena di alcol e di birra. Ma mal vissuto, un uomo mal vissuto. No, ma Lemme si sarebbe ispirato, sì, al divino Telmo, capito? Ah, ma è incredibile. Ancora Otelma contro Lemme. Sei un pagliaccio che non riesci ad applicare su questo corpo macilento e deforme il proprio rituale. Fai dimagrire le quattro ciccione. Fa mostra al popolo il tuo ventre ricolmo di grasso. Mostra al popolo, fai vedere se il tuo rituale funziona su di te. Mostra, apri la camicia, mostra se il tuo rituale funziona. Fai vedere che sei in forma, non puoi farlo. Neppure allo zoo quello, va bene. E poi il rituale di Otelma. L'ha un certo fatto pure lì. Sì, il rituale di Otelma. Accendete la candela rossa. A questo punto posizionate la candela davanti a voi e ripetete dopo di noi questa formula. Io sono in verità. Parlate, dite. Orribile a vedersi. Parla di lui. Io aborro il grasso nauseabondo che mi opprime. È un'autobiografia sta qua. Nessuno mi ama perché sono grasso. Ma da questo momento in avanti mangerò solo una volta al giorno, dopo il tramonto, e davanti a me risplenderà la luce. Ragazzi, anche da Costanzo, come prima alla Zanzara, il rituale per dimagrire del divino Telma è tutto finito. Il sale grosso, e bisogna dire anche il vostro nome, il rituale per dimagrire. Ragazzi, inutile che vi ludete, non può funzionare questo rituale. Parenzo, potresti provarlo, del rituale? Sì, ma il rituale per mandarlo a fare in culo, quello è l'unico rituale che funziona. Quando lo chiami la prossima volta, l'unico rituale che si può attuare, come direbbe lui, è questo qui, quello di mandarlo a fare in culo, serenamente. Basta così. Adesso spegnete la candela, con un soffio lasciatela cadere al suolo, prendete bruciate con la mano sinistra il sale grosso, deponetelo lasciandolo cadere lentamente al vostro tergo. Deponetelo al vostro tergo, alzate le braccia verso l'alto. Le candele. Ognuno di voi ripeta il proprio nome a voce alta, dite il vostro nome. Il rituale è terminato ed è replicabile ad libitum. Ma non succede nulla. No, ma scusa, ma perché non lo aspettano fuori dal teatro e non lo corcano? Io fossi quel pubblico del teatro Parioli in Roma dell'ottimo cosa, io aspetterei quel pagliaccio là fuori dai camerini. Appena esce dici: senti Mago, vieni qua un attimo in un vicolo buio lì, da corcarlo proprio, in modo amichevole, per carità, da corcarlo proprio. Allora Claudio, questa multa qua, perché l'hai presa alla fine? Per, sì. Perché ti allora, niente, praticamente arriva la volante, pronto? Mi senti? Sì, ti sento. Arriva la volante e praticamente mi fermano, mi chiedono i documenti, sì. e praticamente cominciano a scrivere il verbale e io scendo dalla macchina e fanno: perché stai scrivendo il verbale? Sì. Mi fa: tu scendi in luogo pubblico. Cioè, ma, è troppo, me, ma è poco, 1500 no, aspetta, sì, ma cioè, gli ho detto, ma intorno a noi c'è il nulla, sono i mezzi di campi, sì. Cioè, è un luogo pubblico, mica facendo il non esiste il luogo pubblico, certo. Cioè, cazzo. E niente, gli faccio al carabiniere: perché vuole favorire? E questo si incazza come una iena. Ti credo. Si incazza proprio, sì, sì, sì. E dovevano portarti in questura no, o alla centrale no, operativa? Avrebbero dovuto parlarti alla centrale operativa, avrebbero dovuto fare così. Ragazzi, comunque, ma quale centrale operativa? Non diciamo Lorenzo ha ragione dai. Sugli clandestini, barba e capelli fatti, sempre puliti, anche quando arrivano qua. Va bene. Su questo non ti esegio. Martina, provincia di Venezia, vai. Pronto? Martina. Sì. Dimmi, cara, dimmi. Cosa volete che dica? Hai chiamato lei. Hai chiamato tu, mica io. Sì, parlavate dello squisting, giusto? Sì, abbiamo parlato ogni tanto dello squirting, sì. Ogni tanto. Sì, allora... Mi faccio io una domanda, che cos'è lo squirting? Ma non lo so, ma perché ci fai la domanda? Tu abbiamo parlato l'altro giorno con una specialista, abbiamo parlato con diverse persone, a che titolo parli tu? Non ho capito. Nome di porno star, squirtatrice italiana. E vabbè, d'accordo, Martina ma Gold. Questo... Martina Gold, va bene, benissimo. Allora, cosa ci vuoi dire a questo proposito? Che lo squirting è soltanto pipì. Va bene, poi c'è, infatti l'altro giorno la specialista ci ha detto questo, che c'è anche questa componente fondamentale. No, non è una componente, è quello, c'è solo quello. Vabbè, ma adesso perché vuoi specificare questa cosa? Spiegami, perché ci tieni perché tanto anche tutti, con questo tono polemico, diciamo, no? Perché tutti i maschi italiani, sì, e soprattutto tante colleghe, sì, hanno messo su tutta sta baracca dello squirting, di questo liquido che sì, le donne producono così, tanto sì, per... Potrebbe andare, potrebbe essere una editorialista di Famiglia Cristiana, sì, molto di... la signora Martina. Io veramente non mi anche capacito. Anche su Avvenire, Avvenire. Sì, proprio, aperto certo, ai 5 Stelle, potrebbe aprire anche alle pornostar. Non credo. Beh, scusa, la vedo dura. Beh, l'ha fatto, perché no? Beh, cosa? Ma io non ha fatto cosa? Ah, di aprire le pornostar, c'ha ragione. Si possa chiamare in una trasmissione. Ma scusa, ma questa fa la pornostar. In una radio economica. Non c'è nessuna radio economica. È questa. Martina, che, detta anche Martina Gold, ci sta dicendo una cosa: che lo squirt è in realtà pipì, giusto, Martina? Beh, adesso, esatto. Con questa adesso, notizia pazzesca. È una notizia fondamentale. È però incredibile. Abbiamo avuto l'altro giorno una tecnica, una specialista, una sessuologa. Che schizza adesso. Che, beh, la parola no, schizza mi sembra appropriata. È stato un lapsus. Beh, vabbè. Vabbè, comunque squirting in inglese vuol dire, in italiano vuol dire schizzo, quindi non è che... No, io parlavo dell'indice assolutamente, Nikkei. Sì, lei, parlava di, lei sa che cos'è l'indice Nikkei? No, no, no, giustamente lo spieghi, lo sa, signora. Lo giustamente, no, è l'indice di borsa del Giappone, no, ma non è proprio... quell'intelligente. No, non siamo intelligenti, noi siamo un po', guardi, casca male da questo punto di vista, non siamo affatto intelligenti, non vogliamo, almeno io non voglio essere intelligente. No, no. Sono, diciamo, leggermente più intelligente magari di qualche altra persona, però non c'è, così è un giudizio... Un a caso. Ma no, non lei. Non lei, ma perché c'ha questo atteggiamento? No, non si butti così. Noi siamo amici delle pornostar. Siamo sì, un posto dove accogliamo pornostar, transessuali, chiunque. Ah, questa è la pornostar? Non avevo mica capito. Sì, dice di fare la pornostar, signora Martina Gold. Ma adesso la googolo. Signora Martina, ma signora Martina, ci sentiamo più tardi perché devo andare a sentire una persona. Ci sentiamo più tardi. Va bene, la richiamo, un bacio. Martina sì, Gold. Sì. Ciao, ciao. No, lo sai perché l'ho interrotta, Martina? Risulta, risulta. Sì, risulta, no, ma sicuramente c'è. Allora, la cosa fondamentale... Non è molto vestita in queste foto. Beh, no, certamente, fa la pornostar. Allora, ragazzi, c'è un elemento chiave. La Chiesa Cattolica che non si fa i cazzi suoi. Beh, anche di fronte a questa vicenda infinita dell'eutanasia, cioè alle ultime volontà del paziente, io la parola biotestamento non la voglio nemmeno pronunciare, perché mi fa orrore. Mi fa orrore. Bisogna parlare, bisognerebbe parlare solo di eutanasia. Sì, certo, non c'è, cioè, bene. Diritto di morire. Assolutamente, bravo. Diritto di morire. Diritto di farla finita. Diritto di farla finita. Allora, di fronte a questa cosa qui, che in Parlamento sta facendo proprio dei primi passi, dei primi vagiti. Robetta, dei primi vagiti. Sì, sì, sì. Allora, la Chiesa Cattolica, in particolare alcuni parroci, suonano le campane a morto. Suonano le campane pazzesco, a morto. Pazzesco. Tra questi un signore, cioè dicendo che è la fine della società, il trionfo della morte. Cercano di dirci che la vita non ci appartiene. Poi ve la prendete la con gli imam e poi ve la prendete con i musulmani che sono in Italia. Ma adesso che cazzo c'entra? Sono no, due cose. Io me la prendo c'entra sia con questi che con gli altri. C'entra, perché... E me la prenderò fra poco anche con i testimoni di Geova, perché è una no, nuova setta. No. È una nuova setta. Già Putin, anzi, nuova, non ci è pensa nuova. Già Putin. È una setta anche quella. Una setta importante. Quale bisogna. Setta? Ma c'è gente per bene, ci sono cose dici? Poco chiare, ma là dentro, ma tu poco, sei chiare, poco chiare, poco tu, chiare. Tu sei poco chiaro. Comunque, ragazzi, questo signore è un parroco del Molise, un parroco del Molise, il quale ha suonato le campane a morte perché è contro l'eutanasia. Sentiamolo, vi prego. Pronto? Don Mario? Chi è? Buonasera, come? Qui Radio 24, salve. Buonasera. Buonasera. Salve Don Mario, come sta? Io bene. Ha fatto suonare le campane, mi sembra, no? Sì, sì, certo. Ecco, ma come mai ha fatto suonare queste campane? Me lo spieghi? Dunque, lo scorso anno io l'ho fatto suonare per le unioni civili. Sì? E poi, siccome avevo previsto già lo scorso anno che a un anno di distanza sarebbe accaduto tutto questo, cioè la cosa sull'eutanasia, dice lei, questa sull'eutanasia, io puntuale ho risuonato di nuovo le campane a morto. E non solo io, sì? Ma anche altri tre parroci, per far capire alle nostre comunità che cosa? Che si sta mettendo in atto delle legislazioni di morte. Cioè siamo in presenza di leggi che incitano, è un inno alla morte, dice lei. Per me sì, perché questa legge aiuta a morire, non a vivere. Scusi un attimo, parroco, Don Mario, lei ha detto anche, ha fatto un esempio, se vedi una persona che sale sul parapetto, me lo puoi ripetere questo esempio che è molto importante? Se una persona si sta gettando giù dal parapetto, che faccio? Le chiedo prima se ha firmato le date. Cioè? Si è firmato una dichiarazione che non vuole essere aiutata a vivere. Però scusi un attimo Don Mario, le posso replicare all'inizio con molta calma in questo modo. Sì. E uno che sta su un parapetto e si vuole buttare è un po' diverso da uno che sta soffrendo, è un malato terminale e magari ha bisogno di una piccola spintarella, che ne so, una puntura, che gli si stacchi un apparecchio, è un po' diverso, mi sembra. Direi. No? Non potrebbe anche aver bisogno di uno che gli dia il respiratore per fare l'ultimo respiro, per continuare ancora a vivere. Però scusi Don Mario, se questo sta soffrendo e magari ha scelto, perché l'ha scritto prima, ha espresso un desiderio che è quello di non soffrire, perché uno non lo può aiutare a morire, scusi? Perché se vuole morire, prima di tutto decide da solo, ma non decide neanche da solo perché la libertà non è assoluta. Ah, lei dice che non c'è la libertà di morire? Assoluta no. Assoluta no. Cioè lei dice che praticamente uno che soffre, è malato terminale, sta per morire, eccetera, non ha diritto di mettere fine alla propria vita, perché la vita è in mano a qualcun altro. No. Difatti, quando lei va in motocicletta, lo Stato la obbliga a mettere il casco. Vabbè, che c'entra? E lei non è libero di non mettere il casco. Questo esempio però non calza. Mi scusi se io lo dico con molta calma, con molta pacatezza adesso. Ma se uno soffre, lei si metta nei panni di uno che soffre. Signor prete, buonasera, sono Parenzo, David Parenzo. Peraltro sono anche ebreo, signor. Vabbè, comunque questo. Non mi interessa. Voglio dire, perché io del mio corpo posso fare quello che mi pare, però. Siamo d'accordo su questo? No. Con tutto il rispetto, perché deve decidere lei, amico mio in tonaca, del mio corpo? Perché? No, glielo chiedo con amore, veramente. Io non decido proprio niente. Se io fossi malato, io un domani vorrei farla finita, vorrei uccidermi. Non ho diritto, secondo lei? Ho diritto, è mio il corpo. Perché vuole obbligare me a darle la morte? No, lei non mi deve dare nessuna morte, ma non deve suonare le campane. Finalmente ci deve essere anche in Italia la possibilità che anch'io, Parenzo, possa disporre del mio corpo. È mio il corpo. Mio? No, lei non ha la totale disponibilità del suo corpo. Ma chi corpo? Gliel'ha detto lei? Io le assicuro. Io adesso se posso farmi un taglio alla mano, posso farmelo, sì. Voglio procurarmi del dolore. Lei se si vuole amputare lo può fare. Certo. Ma che è un diritto questo? Lei farebbe la comunione a qualcuno che ha deciso di farla finita? Dunque, si condanna il peccato, non il peccatore. Con il peccatore vedremo che cosa fare, vedremo nella sua coscienza, valuteremo con la sua coscienza che cosa cioè, che ne so, al papà di Eluana Englaro lei darebbe la comunione? Vedremo. Ma come vedremo? Che ci vuol dire? Discutere caso per caso. Caso per caso, vabbè. Scusi un attimo, un'altra cosa, perché le unioni civili, cioè le unioni tra omosessuali sono un inno alla morte? Mi scusi, non ho capito come bene. Perché campane a morto per le unioni civili, scusi? Perché cos'è morto in quel caso? È morta la famiglia, il matrimonio naturale. È morta la famiglia. Ma sono nate delle nuove famiglie, padre. Nuove famiglie, nuovi amori. Amori 2.0. Ma lei le nuove famiglie, i nuovi amori. Nuovo l'amore tra Giuseppe e David, tra Franco e Luca, tra Marco e Paolo. C'è amore, c'è Dio lì. La saluto e faccia le sue prediche alla sua radio. No, scusi, Don Mario, scusi un attimo. Girl, I wanna take you to a gay bar. ti fai sempre sbattere il telefono in faccia dalle persone, però questo prete è insopportabile. A me uno che dice che la vita non ci appartiene, a che appartiene, non so, a Dio, al divino Telma, ai testimoni di Geova, sì, sì. Non so, mi dà fastidio. La vita è mia, ci faccio il cazzo che mi pare. Il dubbio. Mio corpo, cazzo, non è dubbio. Possibile che un prete mi venga a dire che il corpo non mi appartiene e che non devo soffrire come un cane, non posso togliermi la vita. Ma porca puttana! No, per me non è possibile che loro facciano la battaglia Dai. Contro lo Stato, cioè se loro non vogliono usufruire Vabbè, del ognuno diritto ognuno fa le battaglie anche culturali. Sì, d'accordo, però, se lui non vuole usufruire del diritto alla morte, mica gli si impone di morire. È un diritto che lui può usare come non utilizzare. Giustamente l'amico Bagatta mi scrive: Bagatta, ottimo Bagatta, questa è la fidanzata di Bagatta. Ma perché sei fidanzata con questa fidanzata mi piace di Bagatta? Questa roba di Bagatta. Ma mi perché ti piace? Perché sta simpatico Bagatta. Ma poi con questa cosa mi piace molto. Ma perché ti piace? Perché l'idea che sta con una che ha 18 anni di meno ti piace? Mi non piace moltissimo. Ma che te ne frega a te? Ma saranno cazzi ma no, suoi. Posso dire che mi piace Bagatta? Cosa Vabbè, è un crimine dire che mi piace no, Bagatta? No, no, per carità. Dice giustamente a corredo delle parole di questo parroco. Come diventare ateo in 3 minuti. Ecco, cioè, sì, no, ha ragione. Ha riassunto. Vedi che è lucido, Bagatta. Capisco perché piace alle donne. Mi piace molto. Perché è lucido. Ma che ne sai lucido. Che piace molto alle donne? Capisce, dai. Ma che cazzo ne sai? Sì, devo dire che è sempre piaciuto alle donne. Sì, dai. Come diventare ateo in 3 minuti. Ha messo la chiusura così. La bravo, firma. Bravo, uno deve diventare ateo in 3 minuti. È una brava persona sto Bagatta. Mandate bravo. Questa intervista qua. Sarebbe da mandare di continuo, così la gente si scristianizza, Beh, diciamo. Adesso, no, questo no. Però sì, come dire, si allontana dai preti, da no, questi preti. Perché da sei questi. Diventato così mangia no, preti? Perché mi stanno sui coglioni queste cose qua. Guarda, mi stanno veramente sui coglioni. La vita è mia e se io sto male, cazzo, se io arrivo anche a dire che c'è tutto il diritto di suicidarsi, ovviamente. Ma lasciamo perdere questo argomento. Se uno sta male e soffre, porca certo, la puttana, certo. Perché deve arrivare uno no. da Isernia che suona le campane, vaffanculo, certo, a dire no, certo. sono io che devo decidere io della tua vita o decide qualcun altro. E dai! No! Ed è venerdì! Crucia fino a notte! Non mi rompete i coglioni! Lei è un insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere! Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Ed è venerdì! Stronzone! Peraltro sono anche ebreo, signor... Vabbè, comunque questo... Non mi interessa. Sei anche un ebreo! Cazzo Parenzo, andremo anche a votare, andremo anche a votare prima o dopo, andremo, cazzo! Qualcuno può ricordare a David Mafia Capitale? Come fa a dire che va bene che la signora lì affitti alle cooperative per gli immigrati, cavaliere del lavoro, il cazzo che se lo incula e tutto quello che vuole? David, porco Giuda, Mafia Capitale, va bene? Ti dice niente? Così facevano i soldi. Quindi è un reato, non diciamo stronzate, non si possono fare soldi sulla carne degli altri. Tu che difendi sempre costantemente gli immigrati, l'integrazione e tutto quello che cavolo ti pare a te. Non esiste, Carminati faceva così, se ti va bene così, e allora che devo dire? Cruciani, sei un grandissimo ipocrita, ipocrita. La proprietà privata, quando si tratta degli zingari, è inviolabile, bisogna cacciarli a cacci in culo, eccetera, eccetera. Ognuno fa quello che gli pare a casa sua. Quando la signora invece mette dentro gli immigrati invece degli italiani nella villa, no, perché non gli italiani, perché... Se la villa è mia, ne faccio quello che voglio, quello che cazzo voglio. Non è anche il tuo principio, amico? Ciao. Ma certamente, amico mio, la signora che abbiamo chiamato ieri di quella villa storica in Piemonte, che affitta un'ala ai migranti, ha tutto il diritto, ai migranti, a una cooperativa che poi ospita, esatto, i migranti, esatto, ha tutto il diritto di fare quello che vuole, anche di bruciare casa sua. È una benemerita della Repubblica. Ma non lo so se sia una benemerita. È una benemerita della Repubblica. È evidente che ha tutto il diritto di farlo, assolutamente, ha tutto il diritto di affittare ci a chi vuole. Altro. Però, anzi, siccome... dico di più, le case sfitte degli italiani andrebbero requisite per un periodo limitato dallo Stato, e sono serio, ma no? Stasera sei veramente sono impazzito. Serio, andrebbero date in gestione alle cooperative e dati dei soldi ovviamente ai privati come indennizzo, come un affitto. Ma sei peggio, cioè, di Brezhnev. Se tu hai una cioè, casa, sei peggio, no, di no, ma questo è molto serio. Se una casa sfitta, ad esempio, perché, ragazzi, ma sta dicendo una cosa indicibile. No, ma è indicibile. Hai la casa sfitta, bene, lo Stato, come quando, scusa, quando lo Stato deve far passare la TAV per la Val di Susa, cos'è che fa? Ti espropria il pezzo di terra e ti indennizza. Ma cosa c'entra? Allora lo Stato lo fa per la TAV, lo facesse anche per i ricchi possidenti padroni che hanno tante case sfitte, in questo modo vengono requisite dallo Stato, ovviamente requisite per il tempo necessario ad accogliere i migranti, date in gestione davvero alle cooperative, e gli va dato al privato l'affitto di quella casa. Ma le case sfitte, come ci sono troppe case sfitte, io non dico di darle gratis, tutt'altro. No, così va fatto, altro che questa, questa è politica, questo è il governo dell'economia. Una follia parenziana, stasera ha detto due follie assolute. La prima, la prima che ha detto, no, la prima che stronzi che telefonano, vedrai, lo so già, ma non me ne frega niente, che ha detto, gente, la prima cosa che ha detto, follia assoluta, è che il termine clandestino deve essere addirittura abolito. Sì, quello sicuro. La seconda cosa è che le case sfitte vanno requisite a favore degli clandestino. Ma che clandestino? Allora, comunque, scusami, una cosa, c'è una notizia veloce che arriva da Treviso, importante. L'ordine dei medici ha radiato il dottor Gava, medico antivaccini. Una bella notizia oggi, una bella notizia. Allora, i testimoni di Geova condannano apertamente rapporti sessuali prematrimoniali, adulterio, rapporti omosessuali considerati una perversione e non praticano l'aborto. Testimoni che hanno rapporti sessuali prima del matrimonio oppure extraconiugali possono anche essere espulsi dalla congregazione. La struttura familiare è basata sull'operato e le decisioni dei genitori. I matrimoni devono essere monogami e registrati legalmente dall'autorità. Beh, questo qua è anche la religione cattolica, diciamo, no? Esatto. Questo è un po' di cose, un po' di cose. Quando uno entra dentro questa organizzazione, poi è anche difficile uscirne. Va bene ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Gianluca da Roma, vai, forza, riprendiamo la rumba ragazzi, la rumba ancora qua, ancora qui, no, presenti. Ragazzi, do subito un annuncio, ci siamo anche lunedì e martedì. No. Lunedì e martedì, pronti qui a combattere, niente, altro che... Niente ponte? Ma che ponte, lo sai benissimo che non c'è il ponte, buffone, dai. Aprissero, e allora aprissero la sede di Roma, aprissero. Bravo, dai questo annuncio, aprissero la sede di Roma, aprissero senza la sede risparmiare. Di Roma, aprissero la sede di Roma. Gianluca, vai. Dai, buonasera a tutti. Allora, okay, faccio una premessa. Per la ragazza che ha chiamato prima, pornostar là dello script, se vuoi glielo insegno io come ho segnato. Vabbè, adesso Gianluca, arrivato il fenotto. No, non è vero quello che dice lei, non è affatturina assolutamente. No, perché mi ma ragazzi, qui c'è stata, scusate ragazzi, qui c'è stata la testimonianza fondamentale, non della pornostar, che per carità, con tutto il rispetto, la signora come si chiamava, Gold, sì. Gold, tra l'altro nome Omen, in questo caso nome Omen, però la signora pornostar, non di una qualsiasi altra persona, bensì di una tecnica, una signora anche per bene, mi sembrava, esatto, non che le pornostar non siano per bene, come non la sessuologa di Roma dell'altro giorno, che ci ha spiegato in modo tecnico che contiene anche urina. Contiene anche una urina, scoperta scientifica anche, incredibile. Solamente in determinati casi. Allora, quella lì è solamente... Adesso Gianluca, dimmi un attimo una cosa, tu a che titolo ci chiami? Cioè, perché ci vuoi chiamare? Cosa ci vuoi raccontare? Innanzitutto chiamo per dare un consiglio, diciamo, a chi pratica questa cosa qua, perché è un'arte, diciamo. Io lo scusa, no, mica, ma che ne sa mica tu squirti? Non è che squirti tu, scusami. Ma che ne sa sto qua? No, la mia compagna. Sarà felice di sentire la sua voce alla radio in diretta. Bravo, bravo. Che ha violato quella intimità vostra. È là vicino? Non è qua vicino, ma ti sta ascoltando. Perché sta ascoltando. Allora, signora squirtatrice, fidanzata di Gianluca, ti abbraccio fortissimo. Gianluca, tu dici che è un'arte, cioè la tua fidanzata è praticamente una squirtatrice quasi professionale. Esattamente, bravo. E poi cioè, devi anche saperlo fare, perché non è che te scende, non è che esce tanto così tanto che e poi un altro pensiero c'avevo in quanto per i vegani, per i signori vegani, è proprio il mio sogno trombarmi una vegana dentro una macelleria. Ci sono tanti sogni nella vita, caro Parezzo, anche questo può essere un sogno legittimo. Benissimo, per carità, trombarsi una vegana in macelleria davanti a tutte le cose costolette di carità, mezzo agli abbacchi, pezzi di mamma mia, che meraviglia, che meraviglia. Ciao Gianluca, Mario Verona, vai. Mario da Verona, dimmi Mario, sì, ma niente, io volevo intervenire su Cruciani, ma ho sentito così tante cazzate che francamente aggiungiamone un'altra in più, allora Mario, aggiungiamo un'altra in più, dai, aggiungiamo la tua voce. Lui difende gli invasori, vabbè, insomma, chi gli invasori? Non ho capito, gli invasori sono gli, no, io non ho detto che sono invasori, ho detto lo dico io cioè sono i clandestini, sono di fatto invasori. Ma sì, adesso il termine invasione è un termine che si usava quando c'erano le guerre, salviniano. Sì, un termine salviniano, sì, certamente un termine salviniano. Io sono di Salvini, anzi, però mi sembra che la realtà oggettiva sia questa. Lei come definisce uno che arriva senza essere invitato, senza che nessuno gli chieda di arrivare? No, ma infatti il concetto è molto semplice, che non capisco perché il professor Rigolfi, adesso faccio una citazione alta, no? E credo che stia per pubblicare o abbia già pubblicato un libro, e sto parlando di una delle persone... L'ho visto prima nell'ufficio di Barisoni. Esatto, un libro molto interessante. Il libro è contro i pregiudizi della sinistra nei confronti del popolo, e tra questi c'è quello di pensare, come Parenzo, che quelli che arrivano siano per forza delle brave persone, siano per forza delle persone che portano dei vantaggi, ma tra di loro ci sarà sicuramente, ma sono quelli loro... alla Toscani, alla Pavage, ma tra di loro ci sarà sicuramente qualche criminale, ma tra tutti quei clandestini ci sarà ad esempio il futuro La Corte, il futuro regista della Zanzara, La Corte, sarà sicuramente Abdalla Kabakevici, al posto di Cruciani ci sarà sicuramente Cin Chun La, cioè il cinese, al posto mio probabilmente un domani ci sarà ad esempio un indiano, di fuoco, questo non lo so, capito? Al posto di La Corte sicuramente tra un po' ci sarà uno che arriva dall'Africa subsahariana, ma è evidente, vero, ma che è così, detto? È naturale, ma non è vero. Naturalmente, allora Mario, non ho capito. Non ho capito, ma arriva al posto di Parenzo perché viene invitato? O invitato? Arriva lì, ma come fai a invitare? Come fai a mettere le barriere alla felicità, alla ricerca della felicità? No, come la fai? Rende infelice. Ma scusami, ci sono persone che da anni, da 30 anni, da Cuba scappano verso Miami. Perché lo fanno? Perché vanno verso la felicità, verso la libertà, no? Quella lì è un'emigrazione politica. Allora, se vogliamo, ho capito, ma anche tra i cubani che vanno a Miami ci sarà qualche criminale? Probabilmente sì. Facciamo un riferimento agli italiani che insomma la gente, ti voglio dire questo, la gente che, a lei e a tutti gli altri che ci ascoltano, la gente che sta bene in genere non si sposta, cioè non è che uno ha voglia di migrare, ma cosa c'entra? Si sposta chi vuole, le regole vanno messe, ma le regole, i confini, gli stati, è impazzito, ma chi, no, ma non è una visione moderna, è una visione antica. Vabbè, Marco da Napoli, dai, Marco da Napoli. Davvero? Intanto succede a Verona, davvero, esattamente a Cerea, che un tizio ha messo un cartello di fronte al suo appartamento: vendo casa a Rom, marocchini, cinesi, ottimo, ed escort, no italiani. No, davvero, questo per un tale contrario, che si chiama Rigo Giuliani, che è proprietario di un appartamento al primo piano di un edificio, semplicemente perché gli stanno sui coglioni vicini di casa. Cioè praticamente, ottimo, questo fa il contrario. Una ritorsione. Tutti non vogliono affittare, male, a Rom, marocchini, cinesi e escort anche. Bravo. O comunque transessuale, o quello che è, puttane, vabbè, prostitute. Categoria varia. E lui invece vuole affittare la casa a Rom, marocchini, cinesi ed escort, mettendo tanto di cartello. Stupendo. Per fare impazzire i vicini di casa. Mi sembra meraviglioso. Marco, dimmi. Giuseppe, dai, finalmente va. Vai, dimmi Marco, dimmi. Giuseppe, io chiamo per un intervento che è avvenuto l'altro ieri. Vabbè dai, non c'è bisogno di specificare, che vuoi dire? Vabbè, volevo dire che sto facendo casa. A Napoli, sto facendo casa ed è venuto il tizio. Eh? È venuto il tizio a chiedermi. Scusa, parla bene, togli qualche microfono. Oggi non ho manco detto questa. No. Sei perfetto. Sto parlando. Sì. Vabbè, le linee di Napoli saranno le linee di Napoli che non funzionano. Scherzo, ovviamente uno scherzo, ragazzi. No, guarda, probabilmente le linee telefoniche a Napoli. A Napoli. No, sto scherzando, dai. Marco, allora, non ho capito, ti hanno chiesto il pizzo per costruire casa. No, sto facendo, cioè un palazzetto di della, di famiglia, i miei nonni ce l'hanno lasciato. Cioè tu lo stai ristrutturando? E lo sto ristrutturando, io sono un architetto e lo sto ristrutturando. Ma questo dove, in centro città? No, provincia. In provincia di Napoli. Provincia di Napoli. E ti hanno chiesto, ti hanno chiesto, e perché non sei perché non sei andato subito a denunciare, non ho capito? Perché ci sto pensando. Ma no, ci stai pensando, aspetta, adesso c'è la pubblicità, poi ti richiamo, sentiamo di, cerchiamo di collegarci meglio con Marco, perché questa cosa è importante, per carità, è un piccolo caso, ce ne saranno centinaia, però uno che chiama per dire sto ristrutturando il palazzo di famiglia in provincia di Napoli, c'è uno che arriva e mi chiede il pizzo, è interessante. Parenzo! Sono Parenzo! Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? E che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. E che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. One of these days these moods are gonna walk all over you. Sono Parenzo. E beh, c'è la soddisfazione dell'animale. Peraltro sono anche ebreo, signor. Vabbè, comunque questo non mi interessa. Tutto il mondo difendi Parenzo, tutto il mondo ti piace. Zingari, criminali, neri, non neri, gialli, viola. Gli unici che ti stanno sul cazzo sono gli italiani. Pezzo di merda. Solo un disturbato mentale può dire che le tasse sono belle. Insisti Parenzo, non hanno ancora capito che i soldi degli immigrati vanno ai produttori e agli fornitori italiani. Una tuta, delle mutande vengono comprate a degli italiani per darle agli immigrati, Si alimenta la produzione italiana. Ma cosa c'entra questa roba qui? Cosa c'entra questa roba che si aumenta la produzione italiana? Non è che l'immigrazione deve diventare un business, a me non me ne frega niente che siano le cooperative o qualcun altro. Non è che far arrivare le persone qui significa che qualcuno ci deve guadagnare dei quattrini. Questo è il punto. Parenzo invece dice accogliamo, accogliamo. Allora guarda, ti dico di più, mai più clandestino. Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti umani del Senato. Ma è sbagliato, sbagliato, la cosa clandestina. E l'Associazione Carta di Roma ribadiscono in occasione della giornata internazionale dei migranti l'importanza dell'uso di una terminologia accurata e rispettosa per definire immigrati, richiedenti asilo e rifugiati. Ma la terminologia li chiamiamo clandestini perché non sono invitati da nessuno. Non sono invitati da noi. Luigi Manconi, chiederò nelle prossime ore che in tutte le sedi e i documenti pubblici non si faccia più ricorso al termine clandestino. Clandestino, un termine giuridicamente improprio, gravemente denigratorio e in ultima istanza fonte di discriminazione. Vabbè, dal momento che qualifica Stefano l'immigrato come un nemico. Così, mai più utilizzare il termine clandestino, giuridicamente improprio, gravemente denigratorio e fonte la di discriminazione. La predica sinistroide di Parenzo. Marco, Marco da Napoli ci raccontava la storia della pizza, vai. Allora, in effetti, ricapitolando, un paio di settimane fa, mentre ero in cantiere. Si alza la voce, però, amico mio, se no non si capisce niente. Vai, eri in cantiere con gli operai. Devo gridare. No, hai ragione, però non sento. Che ti devo fare? Ti senti? Sì, ti sento. Senti vai. Adesso. Allora, mentre eravamo con gli operai, entro due persone. Già capisco che erano di quella sponda lì. Sì. E niente, mi chiedono il pizzo. Ovviamente, un battibecco. Quanto ti chiedono? Di andare a parlare in un posto, in un luogo che ovviamente io non ci vado, perché è attenzionato dalla polizia in questi giorni, hanno sparato e quindi io non ci sono andato. Vabbè, allora quando è che ti hanno chiesto il pizzo? Subito dopo? No, il pizzo non me l'hanno ancora chiesto perché mi hanno detto di andare a parlare, ma quello che mi vogliono chiedere, il 10% sul... Vabbè, non si sente, io ho ragione, non si sente l'audio, c'è poco da fare. Hanno chiesto il pizzo, Marco, io sono vicino a te. Però hanno chiesto il pizzo, normalmente il 10% sull'importo lavori. Sì. E questo, io voglio soltanto... Ma perché non vai a denunciare questi qua? Perché non vai a denunciare? Certo che andrò a denunciare. O hai paura? Però andare a denunciare... Potresti avere paura, naturalmente. Andare a denunciare, ovviamente, io sono... paese di Cantone. Non ho capito, scusa, che hai detto? Sono del paese niente. Di Cantone, il Raffaele. Sei parente di Cantone? Parente, sono. Abito nel paese dove è nato Cantone. Vabbè, capirai. Sì. Sai vabbè, quante altre persone allora sono nate nel paese di che Cantone? Che vuol dire, scusa, non ho capito. Vuol dire che... No, però scusami, cerca di Marco, mettiti in un posto dove si prende sto telefono, perché altrimenti è tutto inutile. Ci stai raccontando una cosa importante, ti metti in un punto dove non si capisce un cazzo, con tutto il rispetto. Giuseppe, ho 5 tacche e che ti devo dire? Tacche in testa. Sto gridando come un matto. Marco, allora non ho capito, sei del paese di Cantone, Giuliano, giusto? Cantone, che c'entra questo Cantone, sul sì, ma che adesso è NAC, sì, ho capito, ma che vuol dire? Perché non vuoi, non puoi denunciare? Che vuol dire che probabilmente anche denunciare le forze dell'ordine locale non è molto semplice. Questo non è molto semplice se sei di Giuliano. Vabbè. Stefano da Roma, dai, non si capisce, mi dispiace, richiameremo. Stefano da Roma. Ciao. Intanto dimmi. I sondaggi della Francia ci dicono che Marine Le Pen guadagna un punto. Ottimo. Dopo Stefano l'attentato. Da Roma, dai. Stefano. Eccomi. Purtroppo. Dimmi. Io volevo portare una testimonianza. Non succede, ma se succede. No, non Stefano, ti dirlo vabbè. Perché è già successo con appunto, Trump. Stefano. Testimoni di Geova. Sì, sei un testimone di Geova? No, io sono stato disassociato nel 1988. Sì. Quindi 1988. Addirittura, quanti anni c'hai adesso? Adesso ne ho 47, all'epoca ne avevo 18. Non ho capito, tu sei stato per 18 anni da quando sei nato testimone sì, di Geova? Io sono nato e quando avevo un anno i miei genitori si sono convertiti, diciamo, hanno sì. abbracciato questa religione, perché è una religione. E allora? E allora io ci ho vissuto i primi 18 anni, chiaramente tutto quello che tu dicevi prima è vero, sì. ma lo fanno perché seguono in modo, come dire, puntuale e pedistico quelle che sono i dettami della Bibbia, vecchio e Nuovo Testamento. Quindi siccome c'è ma quali sono i problemi ad andare via? Adesso è passato molto tempo, ma i problemi principali... I problemi ad andare via non ci sono a livello di organizzazione, nel senso che non è che ti impediscono in qualche modo, ma creano... delle dipendenze emotive fortissime, perché per esempio io quando sono stato disassociato mia mamma ha pensato a me come se fossi morto. Addirittura? Chiaramente sì, lei ha consumato una specie di lutto. Tutte le persone che io conoscevo, che facevano parte di, si chiamano congregazioni, no? Sì, sì. Da un giorno all'altro hanno smesso completamente di avere qualsiasi tipo di rapporto con me, anche il saluto. Vabbè, uno può dire chi se ne frega. Cioè... Sì, infatti io ho detto chi se ne frega, figurati. Poi per altre persone può essere più duro allontanarsi, beh, sì. diciamo, dal proprio ambiente, no? Beh, diciamo che per un ragazzo, come nel mio caso, è stato molto duro viverci. Sì, certo. Ma tu con i tuoi genitori poi che rapporti hai avuto? Buoni, perché comunque... Ma sai, le persone che ne fanno parte, di per sé, non è che sono delle persone che hanno una fede. Ma la consideri una setta, tu? La considero una setta perché comunque è stata fondata a fine dell'Ottocento da delle no, persone... No, ma oggi, secondo te, è una setta? È una religione. No, vabbè, è una religione, d'accordo. La religione è un conto, una setta è un altro. Cioè, una setta che ti, come dire, in qualche modo ti costringe a certi comportamenti. È una setta. Non credo che sia eccessivo. Hanno delle modalità di creare confini all'interno dei quali ci si muove, che sono tutti riconducibili, diciamo, all'essere interni all'organizzazione, tra fratelli. È una comunità. Cioè, se ti sposi all'esterno, una persona... Diciamo che non è vietato, no? No, beh, certo. Però sei fortemente scoraggiato a mischiarti con il mondo. Sì, no, ma non c'è dubbio. Io odio queste cose, non le sopporto queste cose anch'io, qui. Non le sopporto. Io l'ho detestato, figuriamoci. Poi, nei confronti del sesso c'è una violenza assoluta. Cioè, per esempio? Sai, non commettere atti impuri viene tradotto come non ti puoi masturbare. Sì, vabbè, questo è dappertutto. Anche il rabbino, vabbè, certo, il mitico vabbè, rabbino ci ha spiegato. Ma io non vabbè, so, certo, però vabbè. Diciamo che viviamo in un'epoca un pochino diversa. Ma sì, ma infatti è una follia, cioè, dai, su. Io tra l'altro ho cresciuto in questo contesto, poi ne ho fatta di ogni. Beh, sì. Perché capisco. Chiaramente era la cosa che più mi interessava, cioè, figuriamo. Cioè, tu chiaramente ti sei sfogato sul sesso come un pazzo. Beh, certo. Va bene Stefano, ciao, ti saluto, ciao, ciao, ciao. Ragazzi, oggi. Responsabile immigrazione di Forza Italia, e dico il responsabile immigrazione di Forza Italia, un tale che si chiama Silli, che conosciamo bene perché è stato anche, credo, abbia avuto delle responsabilità a Prato, sindaco, vice sindaco, non mi ricordo, ha detto che come deterrente nei confronti del terrorismo bisognerebbe seppellire i terroristi islamici avvolti nel maiale. Mamma. Seppellire i terroristi islamici avvolti nel mamma maiale. Mamma mia. Pronto? Sì. Silli? Sì, buonasera. Buonasera, qui Radio 24, salve. Sì. Come andiamo, caro Silli? Sono Cruciani. Chi è il buon Cruciani? Grandissimo Silli. Parenzo, buonasera. Grande, caro Parenzo, tutto bene? Sì, non posso dire altrettanto di lei, ma tutto bene, benvenuto. Ma perché, che ha detto di strano, Silli? No, no, per carità di Dio, andiamo avanti. Silli. No, sa Cruciani qual è la cosa bella? Qual è? Qual è? Che nel rocambolesco tentativo di dare contro a me, di fatto c'è fior di personaggi che quasi quasi danno ragione ai terroristi. Sì, quello è vero, quello è vero. Qual è la soluzione che si può trovare allora per i terroristi, Silli? Se veramente esiste un Islam che si dissocia, allora l'Islam dovrebbe fornire degli strumenti per evitare che queste persone si guadagnino il paradiso facendosi esplodere. E come? In che modo? No, scusa. Le faccio un esempio. Gli imam dovrebbero assolutamente fornire degli strumenti dei deterrenti. Ecco, questo qua può essere un deterrente secondo lei? Scusami, Giorgio, diamoci da tu, scusa. Secondo te è veramente un deterrente questo qua? Cioè questo di dire, guardate che se morite, se vi fate esplodere, non avrete le vergini. Che cos'è che dici tu? Ombra di dubbio, se non ci si guadagna il paradiso portando avanti una guerra santa e facendosi esplodere in nome di un dio, per quale motivo lo faresti? Diciamola tutta. A lei, faccio un esempio anche addirittura della questione israelo-palestinese. Ma non c'entra niente. Quanto tempo è che non si fanno più esplodere dentro i pullman? Vi ricordate c'erano gli attentatori? Sono cambiate un po' di cose, c'è maggiore controllo, eccetera. No. E che è successo? Sembra che per un certo periodo fossero state distribuite all'interno di questi pullman dei contenitori con del grasso di maiale. Ma lei è responsabile? Ma guardi che il maiale anche per gli ebrei non si può mangiare. Ma lei è veramente simpatico. Lei è una persona davvero simpatica. Amico mio, lo dico io, lei è veramente simpatico. Lei mi conferma che è l'irresponsabile immigrazione di Forza Italia. Straordinario. Parenzo, ma non puoi mica banalizzare così, sai, perché che ne sai? Cioè, c'era il maiale sui pullman, sugli autobus israeliani. Ma io non lo so. E conoscere come te, o forse meglio di te, certe usanze. Non devi banalizzare, perché qui non si sta parlando di qualcuno che cerca il titolo di un giornale. No. Sicuramente, se in passato, amici miei, allora avrei potuto, dire una parolaccia o tirare una bestemmia, andavo lo stesso in prima pagina. Però Giorgio, scusami un attimo, andiamo sul concreto, tu veramente pensi che oggi questa roba che hai detto sia applicabile? Nei decenni scorsi, alcune potenze coloniali sembra avessero adottato l'uso e consuetudine di seppellire la salma degli attentatori e terroristi in pelli di animali considerati impuri per l'Islam. Regina Vittoria, in India e in certe zone dell'Africa. Ma allora è un deterrente o no anche oggi? Potrebbe essere un deterrente dirlo o no? Beh, certo che potrebbe essere, ma non è da Stato civile occidentale. Ma ho capito, ma allora perché lo dici? Sono contro l'Islam più di te. Ma se lei che è responsabile, mi viene da ridere, dell'immigrazione di Forza Italia. A lei, Parenzo, le viene un po' troppo spesso da ridere e nel frattempo l'Occidente va a puttane. Comunque, colpa mia, certamente. Io rido all'Islam. Però mi dica la verità, l'Islam è una regione... colpa di quelli come lei che banalizzano. Questa è un sarcasmo da festa dell'unità. Faccia così, anziché costruire il muro come Trump, metta dei maiali. Anziché costruire il muro a Lampedusa, metta maiali. Maometto, che personaggio è Maometto? Maometto, che personaggio è? Maometto è un profeta. Ma è controverso come personaggio, per esempio nel rapporto con le donne. Ma è controverso. Io intanto, sono usi e consuetudini che nel mondo occidentale, sia dell'epoca che oggi, non avrebbero trovato fondamento. C'è mezzo mondo che segue quella religione, io rispetto quel mezzo mondo, ma non mi devono rompere i coglioni. Il mio comunicato si condensa in tre parole. Se un cattolico si fa esplodere in nome di Dio, il Papa lo scomunica e non va più in paradiso. Vabbè. E quindi non si fa più esplodere. Ma lì non c'è una figura come il Papa, se un musulmano si fa esplodere? Se un musulmano si fa esplodere, non c'è nessuno. In questo momento storico si guadagna il paradiso. Io sono profondamente religioso, perlomeno ero prima dell'avvento di questa chiesa un po' così. Anche col Papa. Io sono molto religioso. Pure col Papa. E so quello che determinate persone possono arrivare a fare per fanatismo religioso. Pure col Papa. Lei ha fatto una battuta forte, di basso profilo che umilia, che umilia i credenti musulmani. Ma questo no, questo no. Questo. Perché evocare il maiale? Perché evocare a sfregio il maiale? Nel nostro stato di diritto anche un terrorista ha diritto a un giusto processo, a stare in carcere e a non avere la pena di morte in Italia. Questo beh, è... Ma qui si sta parlando di stato non di esageriamo, diritto, la pena di morte. Civile. Secondo lei un terrorista merita la pena di morte? No, io sono contro la pena di morte. Anche per i terroristi? Io sono contro la pena di morte perché secondo me la vita è assolutamente sacra. Grazie Silly, grazie. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Adesso parliamo seriamente. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. No! Che ti voglio dire, guarda, io se io adesso esco qui fuori, no? Mettiamo il caso che verso le... Verso, porca puttana, mi sta chiamando la zanzara. Donato, eccoci qui, Donato ci ha chiamato. Caro Donato, come va? Come va? Come va? Come va? Capirai, no, accolto come fosse un capo di Stato, dai. Vai, vai, dimmi, dimmi. Di merda, stato di... Allora, Churchill. Churchill, la parola Winston, la parola Winston Churchill, il Winston Churchill della Brianza, la parola Churchill. È quello di parlare, sì, è quello di parlare con calma, sì, con sì. calma, come, sì, come sì, gli è stata data la possibilità a questo porco di Parenza, a questo sionista, perché ormai è un sionista, no, certo mi sono documentata. Parenzo vuole un'Italia completamente rivoltata. Vuole portare tutta l'Africa in casa, no, no. E devono morire tutti coloro che dicono viva Parenzo. Allora, come io sono un italiano. No, tu sì. sei un malato. Sono un vero tu italiano. Come me ce ne sono altri e 60, sì. credo, almeno no, altri no. 50, altri 58.000 no. italiani. Sarebbe un paese finito. 58.000 italiani. Speriamo di no. Allora, non è così per ho fortuna. Ascoltato. Hai sentito che ha detto, no? Cani, hai sentito che ha detto. Devi, allora, devi avere lì in quella trasmissione un bastone, e spaccargli la testa poveretto a quel figlio ogni volta che parla. Poveretto. Hai sentito allora, che cosa ha detto sull'ingresso degli immigrati? Hai sentito cosa ha detto? Viene trattato come Einaudi. L'unica trasmissione al mondo è questa in cui un imbecille che parla come Darth Vader è un malfattore. Ma chi? Io sento sulla mia pelle le grida e il dolore dei miei fratelli, sì, fratelli d'Italia, senti non fratelli migranti. Senti il dolore di quell'unico neurone che lo stiamo distruggendo. Merda! Lo stiamo distruggendo. Allora, ieri sera sulla 7, in quella televisione di merda! Cosa? Cosa hai detto? Io mi auguro merda. Che questi qui, guarda, ti portino via tutto. Quel porco lì, come si chiama? Ma stai zitto! Cretino! Cretino! Conduce, che cazzo è? Ma cretino! Cretino, tu sei piazza un imam! Piazza mi piazza chiamava David sei Piccardo! Sì, Piccardo, ha detto sì. la mia sorella! Sì. Ha detto la mia connazionale! Che la Santanché sì. è la strafaccia dell'ISIS! Sì. L'ha detto più di tre volte! Sì, sì, quel sì. porco che stava conducendo la trasmissione! Mamma mia, come sei schifoso! Ora prende a in culo quell'islamico! Tu sei! Per ma aver che chiamato criminale! Speriamo la che ti denuncino, guarda! Criminale! Ti devono denunciare! Denunciare ti devono! Allora, aspetta un attimo, basta. Fermo, Donato, voglio ti fare... devono denunciare! Voglio... Ma che c'entra? Che ha detto? Ha detto una cosa basta. Giusta! Aspetta! Basta! Denunciatelo! Aspetta. Piccardo basta. Ieri, che è uno di quelli che si... Anza Piccardo, picca, certo. Si picca di essere moderato. Piccardo si picca, sì, per Piccardo forza, si picca di essere moderato. Ha detto una cosa: ha si detto, si chiama l'ISIS e la Santanché sono la stessa cosa. Vabbè, questo forse è un po' esagerato. No, è una puttanata. È una puttanata. Nessuno l'ha zittito. Ma vabbè, quello nessuno l'ha zittito. Io voglio andare nei paesi arabi e voglio essere libero. Vai. Come un islamico si sente libero in questo questa paese è un'ottima idea, che però. Si sta mangiando tu. Allora, questa è un'ottima idea. Vai nei paesi allora, arabi. Lo sanno che sa cosa pensa i medici islamici di me. È un'ottima idea. Fuga di cervelli. Vai. Allora, vai nei paesi arabi. Ti giuro, nessuno ti ferma. Vai nei paesi arabi. Bravo. Vai. Vai. Io non vado nei paesi dove c'è un Dio che io disconosco. Aspetta un attimo, sentiamo. Io voglio stare in questo paese. Sentiamo sono Piccardo. Cresciuto in questo paese. Piccardo. Sono nato in questo paese. Un uomo di me. Allora. Concluciamo. Io non capisco. Allora. Dimmi. Allora. Io non guardo, allora. Ma sono un uomo che vuole dire le cose. Come nervoso. Allora, senti. Questo che tu hai a fianco a te. Sì, sì. Un domani molto lontano. Sì. La tua carissima figliola. Cosa piange? Sì. Ti domanderà papà. Ho visto delle foto tue quando eri più giovane. C'era un'Italia diversa, papà. Cosa sono tutti questi coni turbati in testa, con queste palandrane? Dove non è possibile andare via con la minigonna? Perché quando crescono questi, è normale che se tu nell'odio ci butti l'acqua, è normale che l'odio non diventa più acqua, è normale che se dentro al latte ci butti un pizzico di limone, l'acqua va in acido. Noi stiamo in acido, andando, è il tuo cervello in acido. Bisogna fermare il popolo islamico, bisogna fermarlo. Hanno dominato tutte le terre, si sono prese l'Egitto, si sono prese la Turchia. Andate a vedere nella storia, erano paesi non islamici, sono cresciuti e ci stanno prendendo l'Europa e quei figli di puttana, ripeto ancora, Prodi, Bersani, ma che c'entra adesso questi assassino Renzi, assassino querele su querele ormai potrebbero essere anche uccisi dall'Islam. Ma quello porco di Renzi lo sa o non lo sa e che dovrebbero fare? Diventerà una barbarie questo paese, aver spostato i soldi dal comparto sanità mentale. Aspetta un secondo, Piccardo Santanchè, questo lo devo far ascoltare però, Piccardo Santanchè, vi prego, lo devo far ascoltare. L'ISIS, così come alcuni movimenti, per così dire, di estrema destra, razzista, si alimentino alla stessa foce, diciamo, che praticamente strumentalizzano un certo disagio. Sì, per esempio la Santanchè, l'ISIS e la Santanchè sono due facce della stessa medaglia. La Santanchè è paragonata al terrorista islamico. Sì, perché praticamente sono sciacalli che mangiano del disagio della nostra società. Sì, la Santanchè non ammazza, Daniela Santanchè. Beh, devo dire che qualcosa ha detto il signor Formigli, ha però. Ha detto . Assolutamente, ma ovvio che ha detto. Ma tutti i figli di questo povero imbecille, dai, ma questo è un disturbato mentale. Formigli, se fosse stato disturbato, un donato, sei un disturbato. Avrebbe detto, chieda subito scusa, ma ha detto, per aver chiamato Carnefice. Ma che cosa, ma lascia sta. Ha detto quello che doveva dire, stupido. Ma guarda te, ma un grande professionista come Formigli se ne frega di quello che dice lei, stupido. I cristiani si sono venduti all'Islam, quelle che mettono in affitto le case, che mettono sotto gli italiani, ci sono più di 200.000 italiani senza piange? Casa, di cosa stanno piangi? Morendo, ma pensiamo ai popoli falliti, pensiamo ai fottuti africani, pensiamo a quella gentaglia negra che non c'entra un cazzo con la nostra, non è questione di superiorità, perché se fosse questione di superiorità non mi dovrei spiegare perché fanno i tornei, no? Per sapere chi è più forte. Io non sono più forte degli africani, sono diversi da noi, cambieranno. Perché sono diversi? Dimmi, perché i negri sono cambieranno diversi? Cambieranno tutto. Perché i negri sono Guarda diversi? Guarda che aver tolto quel farmaco dal prontuario comporta sta roba qua. Ti hanno tolto il farmaco. Ti hanno tolto il farmaco a te. Quando capirai chi hai a fianco. Sì, certo, c'è la Begrazia che lo sostiene questo parco. Chi lo sostiene? Chi le fa dire quello sarei, che sarei io. Parlare contro gli italiani. Io sarei sempre contro gli italiani. Hai sentito che ha detto prima, scusa, Donato. Donato, allora, Donato, scusa un attimo. No, ho detto una cosa molto semplice. Hai la parola clandestino va abolita. Hai sentito che ha detto prima? Per lui italiano è battumiera. Gli italiani si atti solo contro per lui, quelli che hanno il potere. I De Benedetti, l'assassino Renzi, il criminale Prodi, mamma mia quante querele che fioccano, mamma mia, assassini che hanno portato questo paese nell'inferno e viaggiano con le guai nel corpo quei cani. Allora voi islamici, voi clandestini, se le vostre efferatezze non riuscireste, voi non riuscite a controllare, andate ad ammazzare semmai questi, non gli innocenti che hanno detto scusami Donato, scusami un attimo. Renzo prima ha detto che bisogna aprire tutti non i confini, tutte le frontiere, che la parola clandestino va abolita. Parenzo è lo scroto di George Soros. Se vai a vedere i coglioni di quel criminale, troverai l'effigie di questo criminale. Lo scroto di Soros. È immondizia! Questo è un criminale! Scusa, come si chiamava quel farmaco che hanno messo fuori commercio? Perché funzionava prima. Come si chiama quel farmaco che prendevi? Che era fuori commercio? Che è fuori commercio? Darth Fener, senti. Guerre stellari. Darth Fener, senti. La bombola d'ossigeno che gli manca. La bombola d'ossigeno. Cambiategliela, sennò muore. Cambiate. Anche se tutti questi qua mi stanno perseguendo. Chi? Non chi? So che cazzo mi vogliono fare. Ma mi fanno ricatti. Ecco il maniaco ossessivo, come direbbe la mia amica psicologa. Chi ti vuole? Noi abbiamo un Christian Allam, ecco, che ha le guardie mi del corpo. Mi scrivono scroto di Soros. Perché l'Islam lo vuole uccidere. Ci si mette trovatemi voi un islamico su questa terra, sì, dove esista. Guarda che, scusa, ma scusa, è un problema di farmacopea, sai. Siamo fottuti, non abbiamo più speranza, ragazzi. È tutto un problema. Non abbiamo più speranza. Non abbiamo più speranza, sì, perché hanno tolto il farmaco che ti teneva un po' più lucido. Non abbiamo più speranza, bravo, bravo, bravo. Verme, devi sparire. Aggressività repressa. Aggressività repressa. Ti devono chiudere una scatola e mandarti... Ne mandate nel Dubai. Nel Dubai. Dubai non è male, Dubai, però. Quei paesi che per altro tra tutti i paesi, Dubai, sono stato io, non è male. Dove regna l'Islam, sì, c'erano i cristiani. Dove regna l'Islam, sì, c'erano i cristiani. E l'Islam lo sa. Lo sa l'Islam. Un uomo di una lucidità unica. Questa. Due secoli, tre secoli fa c'erano i copti. Sì. Li hanno uccisi tutti. E questa è la fine che farà l'Europa. Ciao Donato. Questa è la fine che farà l'Europa. Ciao. Perché abbiamo governanti assassini. Addio. Assassini. Addio. Che non hanno le palle. Torni in branda. Hanno il cancro. Torni in branda. Ciao. Torni in branda. E tu? Dai, dai, che arriva l'infermiere bianco, il camice bianco, dai. E tu, grande uomo, quale sei? Grande uomo. Ti ha rovinato, eh? Uomo perché hai coraggio. Ti ha rovinato Cruciani questo. Qualcuno dice, quello Cruciani ti fa parlare perché ha bisogno di spettacolo. Che spettacolo sia? L'endorsement. Nello spettacolo, i più grandi guitti dicevano tante verità. Benissimo, ma perché sono ansima guitto, sempre? Che faccio divertire. Ma queste cose rimarranno nella storia. Ma certo, nella storia, certo. Nella storia dei manicomi criminali. Fermo. Aspetta, fermo lì, non te ne andare. Pronto? Sì, Piccardo? Sì. Sono Cruciani, ciao. A Zanzara, ciao caro. Ciao. Buongiorno. Senti Piccardo, perché hai detto che l'ISIS e la Santanchè sono la stessa cosa? Fatto un paragone eccessivo, dai. No, no, mio figlio, non io. Ah. Tuo figlio. Passami tuo figlio, sì, un attimo, sì. Scusami. Mio figlio è mica qua. Non è là con te. Non no, è con te. Hai sbagliato Piccardo, infatti. Ho sbagliato. Scusi il disturbo, professor Niente, Piccardo. Niente, non ha detto questo. Ha detto sì, ha detto questo. Ma sì, no, ha detto un'altra cosa. No, ha detto questo. Ha detto questo. Ha detto sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa, ha detto. Piccardo ha detto che sono la stessa cosa. No. Sì, ma perché? Perché devi difendere perché una cosa? Sentito. È indifendibile. Sentito, è indifendibile. È indifendibile. Ma una... non c'entra che difendere. È indifendibile. È indifendibile. È indifendibile. Ha detto sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa. Pronto? Sì, eccoci. Allora, Piccardo, sei tu. Abbiamo chiamato tuo padre prima, ci siamo sbagliati. Allora, hai detto che l'ISIS e la Santanchè sono la stessa cosa. A me ha fatto un paragone eccessivo. Ciao, dai, ciao, caro. Paragone eccessivo. No, caro, un cazzo. Allora, Piccardo, hai detto ISIS. Ma ha fatto un paragone un po' eccessivo. Dai, dai. Cos'è? Cosa c'è? Hai detto che l'ISIS e la Santanchè sono la stessa cosa. Due facce della stessa medaglia. No, sono due facce della stessa medaglia. Ma come fai a paragonare? A parte che non è vero, risentiamo un attimo. Scusa, aspetta un attimo. Come non è vero? Risentiamo, aspetta, risentiamo. Risentiamo, aspetta. L'ISIS, così come alcuni movimenti, per così dire, di estrema destra, razzista, si alimentino alla stessa foce, diciamo, che praticamente strumentalizzano un certo disagio, sì, per esempio la Santanchè. L'ISIS e la Santanchè sono due facce della stessa medaglia. La Santanchè è paragonata al terrorista islamico. Sì, perché praticamente sono due facce della stessa medaglia, cioè non puoi mettere sullo stesso piano la Santanchè e l'ISIS. Si alimentano. Vivono l'uno dell'altro. Ma dai, su, ma non può. Ma l'ISIS, vivono, l'ISIS. Sono in simbiosi, la Santanchè e l'ISIS sono in simbiosi. Ma come fai a dire che sono. Ma quelli sgozzano la gente. Se la Santanchè fosse nata in Iraq, sgozzerebbe la gente. Sgozzerebbe la gente. Questo non lo sa. Questo è sicuro, no, questo sicuro. Ma dai, Piccardo. Se la sicurezza fosse nata in Iraq, sgozzerebbe la gente, sicuro. Ci ma come fai a dire una cosa del genere? Ci mettono sul fuoco. Ma dai, su. Questo no, questo non si può dire. Ma quella è una che ha le sue idee, che possono essere sull'Islam, sì, che ha le sue idee, non torcerebbe. Ma infatti, no. Ma lei, perché è una violenta, secondo te? Una violenta? È violenta, ha un linguaggio violento, così come è la pericolosa sua per l'Italia. È pericolosa per l'Italia. La sono pericolosi tutti coloro che soffiano sul fuoco. No, ma la Santa Anche sto parlando. Questo ha ragione. Sto parlando sul fuoco, Cruciani. Su questo, no, ma io sto parlando della Santa Anche, non mettere in generale. La Santa Anche ci sono degli apprendisti stregoni. Quando i nazisti hanno iniziato a dire certe cose, tutti dicevano: ah, vabbè, ma tanto non succede niente. I nazisti, certo. Cioè, determinate idee sono molto pericolose. Cioè, tu stai avvicinando la Sant'Anchè ai nazisti? Vabbè, più o meno la famiglia ideologica c'è una certa vicinanza. Ragazzi, amico mio, ma è una follia. Stai dicendo una follia. Ma ci sono le idee che sono. Allora, quando tu inizi a individuare in un gruppo etnico, sociale o religioso una quinta colonna del nemico all'interno della società, certo, questo è il discorso. Ma che lui non parla delle persone che stanno tranquille, parla delle persone che mettono le bombe. Vabbè, allora, parla dei fiancheggiatori. Mi devi spiegare perché se ce l'hanno con i fiancheggiatori o con i criminali non fanno aprire una moschea a nessuno. Mi devi spiegare. Ma loro perché dicono che l'Islam è una religione di violenza, in parte. Allora non ce l'hanno con quello che ha messo la bomba o quello che Piccardo, ha fatto l'attentato. C'è un mio ascoltatore che è molto incazzato con te. Ci vuoi parlare? Ci vuoi parlare o no? Donato. Sì, Donato. Ci vuoi parlare o no? No. Perché no? Perché no? Devi avere il coraggio di parlare. Ha paura delle mie domande. Io ho paura dei loro maceti. Lui può avere soltanto ma quale macete che è un italiano stupido, è un cittadino italiano, ragazzi, divertitevi, buona serata. No, vabbè, ma non è che puoi fare solo snob. Ma perché che c'ha? Perché che c'ha? Lascia perdere il macete che non ce l'ha. Non ce l'ha il macete, Donato, non ce l'ha il macete. Però scusa, sto parlando di macete anche simbolico. Piccardo, non fare lo snob. Non fare lo snob. Cosa gli dico a Donato? Dimmi, spiegami. No, ma Donato è uno che aspetta, no, Donato, aspetta. Donato, siccome siamo in conclusione, c'è una sola cosa. Donato pensa che sia in corso un'invasione islamica che distruggerà il nostro paese, capito? Questo è il punto fondamentale. Mi dispiace per lui, cioè, come dice Parenzo, cioè, gli diano delle medicine nuove. Risposta di Donato, veloce, vai Donato. Per quanto riguarda la poligamia, come vi permettete di promuovere la poligamia in un paese cristiano? La poligamia, sei a favore della poligamia? Aspetta, Piccardo, sei a favore della poligamia? Assolutamente sì. Cioè, sei a favore della poligamia? Ma certo, il riconoscimento del diritto alla poligamia, poi ognuno fa quello che vuole, voglio dire. Beh, amico mio, però la poligamia è una cosa che, cioè, voglio dire, per la donna... Ma tu sei per il diritto ai trans, a fare orge, gangbang, tutto quello che squirting, quello che voglio, e uno lì non si può sposare con una o più donne se c'ha voglia. Ma non è la stessa cosa, amico mio Piccardo! Non è uguale! Cosa? Ma cosa dici? Ma noi siamo per i diritti a 360 gradi. Allora qua si può sposare un uomo con un uomo, una donna con una donna, perché si può sposare un uomo con due donne. Ma come non è tutti torti? La donna è sottomessa! La donna è sottomessa in quel caso, Piccardo, è sottomessa! Vabbè. Come vabbè? Vabbè un cazzo! È la donna di Adinolfi, non le nostre. Cioè. Ah, le vostre no, le vostre sono invece... Le vostre sono quelle... Cosa ti è sì sottomessa? Ragazzi. Ma che fai il coso? Cioè, c'ho da fare. Aspetta, finale di Donato. No, ma è finale di Donato. Aspetta, finale, Donato. Ma cosa vuoi sapere? Cosa io gli sto dicendo. Sì. Se vuole bene, se questo uomo qui vuole bene l'Europa, vuole bene. Dovrebbe andarsene via dall'Europa. È italiano. Ma non è islamico. Vada con la sua gente. È italiano. Vorresti andare islamico. Io non resisterei qui in mezzo. Vorresti andare islamico. Tu sei stupido. Lui è islamico e tu sei stupido. Piccardo, vorresti andare a vivere in un altro paese? Io sono stato tanti anni all'estero, però. Ma vorresti andare a vivere perché mi piace. Vorresti l'Italia islamica? In che senso? Tutta islamica? Ma no, ma l'Italia è bella così com'è. Ti abbraccio, ciao a tutti, ragazzi, ciao. A lunedì, ci siamo, Donato, ci siamo a lunedì! Asmodeo, vai via! Arrivederci e come sempre, viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà! Peraltro sono anche ebreo, signor... Vabbè, comunque questo... Non mi interessa.